Molto bene, siamo in diretta. Ma ora tu che vai all'estero per scopare. Ah. Scusa. Che poi purtroppo non è diretta. Che poi purtroppo non è neanche vero. Chiedi un attimo. Ormai di quello che dovevi dire. Non segue nessuno. Visto che tratta per il turismo sessuale, l'ha comandato poi. Ma qual è il Copenaghen? Copenaghen sessuale. Costa tanto. No, beh, Vez, l'abbiamo va chiesto fuori dall'Italia. Vez, no, ma non è vero, non lo so, io dormo niente di rimorchiare dovunque tranne che in Italia. No, no, io non hai rubato, hai trovato roba. Devo essere sincero, non ha detto ovunque tranne in Italia, ha detto ovunque tranne Bologna. Ah, bisogna lasciare a Vez. No, non l'ho mai detto. Ma ha detto tranne in Italia. Ah, ok, vabbè. Cioè lui potrebbe scopare dovunque tranne in Italia. No, non l'ho mai detto. In Italia è l'unico paese in cui non può riprodursi. Non l'ho mai detto. È terribile. Deve estinguersi per forza. Non l'ho mai detto. Non è funzionale. O prende proprio la residenza fuori. Ma non l'ho mai detto. Sono sempre maledetti con sta cosa. Ma voglio andare in Italia. Non puoi, figlio. Pensavo non fossimo in diretta. Chiedo scusa al pubblico. Va bene. Bigotto. Nota al pubblico. Purtroppo non faccio né qua né all'estero. Comunque vabbè, a prescindere da questa cosa che ma il pubblico non interessava, non mi interessava se purtroppo. Copenaghen avevi. Esatto. Però giochiamo, cioè, io dormivo, quindi non lo so. Però giochiamo a giochi di ruolo e lo facciamo come Tycoons and Dragons. Le cose possono avere un nesso molto molto. Faccio un commento a tua cugina, magari ha sentito. No, dai, vi prego, no. Sarebbe bellissimo. E va bene, comunque sia. Ti farò scrivere Tato, ma tu me la stai buttando il culo lì? Non credo che Tato è stato scritto. Beh, adesso ho buttato culo, non so se. Va bene, ragazzi. Allora, va bene. Comunque, non buttiamo al culo. Alle streghe invece, non buttiamo al culo. Ah, cazzo, errore mio. Vai bene. Però l'audio funziona, siamo contenti di sapere. Sì. Vabbè, questa è la prima sessione dell'anno, quindi ovviamente c'è un po' di emozione. Buon anno. Ora sei te. Cosa ti ho detto? Perché sono io che ho silenzioso, cazzo? Buon anno. E poi mi sa che ho parlato quel di no. Allora, non era nato in no, non so di cosa stai parlando. Ci sono sempre, come vedi, Tato, Arci enorme. Giulio, ti amo. Chi ha scritto Giulio, ti amo? Lui. Ma che bello. Grazie. Va bene, ma è romantica. Iniziamo le nostre fan. Iniziamo i nostri fan. Diciamo che noi siamo ovviamente Tycoons and Dragons. Ci potete seguire sui nostri canali social. Oggi giocheremo alla maledizione di Catta Atto 4. E non è la quinta. No, è la qua. Cioè, di fatto ci sono state le due prima di Halloween, speciale Halloween. Però è di fatto l'atto 4 della maledizione. Vabbè. Comunque, esatto. Dimmi. Pilot. Tato schermo. Sì. Già. E giocheremo a Dungeons versione 5.0 come sempre, l'avventura che ho preparata, che conosciamo. Con me da Bologna della Giacomo Vecchia abbiamo Edoardo Saladini, Francesco Arcidiacono, Giulio Bosi e il master ovviamente Enrico Catabriga. Salutiamo a Sofia, Luca Lazzarini. A proposito di turismo sessuale, ecco io, ciao per visitarlo. Turismo sessuale è la strada in 4 ore. Vabbè, l'argomento con cui abbiamo iniziato. E vabbè, un po' di couchsurfing. Un po' di couchsurfing. Couchsurfing. Comunque con 30 euro ci viaggi a fine di stava anche lì. Probabilmente sì. Parlavano pure la stessa lingua. Aveva anche la malattia venerea in omaggio. Li puoi scegliere. La malattia venerea. Cioè, bello questo. Potrebbe essere dici che c'è la vetrina AIDS. No, puoi scegliere se evitare di prendere. Ah, se non ha pagato una Bucarest, non la paga. Non so. Non riesco a dirlo. Ecco, purtroppo non ce ne sono che a palestra tutti i giorni. E le mani che sembrano in merda di vasellina. E vabbè, io questo mentre Giulio sbocchi. Sono già lavati i denti. Salutiamo anche Stefano. Farvi la vita della prostata, ma non aprire la bottiglia. Quindi. Considerate che ultimamente il mio unico scopo nella vita è aprire le cose. Che bello! Anche a Capodanno mi fa, non riesco ad aprire questa bottiglia. Aprimi il culo. E aperto il culo io. Va bene, intanto buon anno a tutti, salutiamo anche Stefano Gamberoni che non è potuto essere con noi a luglio, però... Cazzo ride! Che falsi! Cioè, io potete abbandonare questa campagna. Sì, esatto. Più o meno. Ci sono un bacino? Un po' d'acqua. Vuoi un goccino di birra? O sei... Grazie, 30 anni che non bevo birra. No, magari volevi brindare con noi. Per averne pensato. Se vuoi per piacere liberare quel bicchiere. Non posso, c'è un sacco. Ah, ma quella è birra tedesca, io bevo solo birra italiana. No, questa è olandese. Le nostre valli. Questa è olandese, tra l'altro esatto, te hai un esempio della qualità. Tuo cugino che fa la birra? Com'è che si chiama pure? Grazie. Mio cugino la birra? Basta. Giovanni Berti. Cioè, lui fa l'ingegnere, però la birra è tipo te. Ah, fa la birra cosa? Tipo te. Che non è la sua. Come si chiama il suo. Va bene, salute e un nuovo anno di. Ah, sì, te ce l'ho la tua. La Sofia. Salami, mettete l'acqua che sono in merda bottiglia. Anche lo schiavetto bisogna. Salami in merda. Comunque, quando parlavamo di amici ritardati. No, no, ma più o meno tutti. Raga, perché salami in merda. Vuoi che ti metta la crema? No, grazie. Cose. Adesso quando tiro i dadi, poi vediamo. I dadi sono diretti. Io i miei. Allora. Pensavo che andassi via prima questa roba che mi si è assorbita fast. Te spammi un chilo. No, non lo sapevo. Okay. La responsabilità e bene. Vorrei per ricominciare con buona lena al nuovo anno. Fai tu un recap. Farò io un recap, ma vorrei che voi la rifaceste. Bravo. Cosa? Merda, bene. Vorrei che iniziaste a fare una ripresentazione dei nostri personaggi. Cosa? Di nuovo, dopo un anno. Il tuo personaggio. Se cambi musica? Puoi cambiare il testo? No, stesso. Il testo mi piaceva. Vai. Bello, dove l'hai comprato? È il suo nuovo cappellino. Dabu. Esatto, Dabu. Sarà rosa italiana. Questo no, rosa italiana blu corale. Ah, il cappello da straccione. Straccione. Che ironia. Va bene? È bellissimo. Dai, alzami da su. Niente, cosa vuol dire presentazione? Riditemi chi siete. Perché l'ultima volta comunque vorrei tanto me non hai ancora imparato il mio nome. Io vorrei sono far notare che l'ultima sessione Kat ha detto la prossima volta potreste non fare troppo casino. No, era quella prima. No, era quella prima. Questa invece taglieremo corto perché per la prima metà non dovete proprio parlare. Questa campagna in realtà Shio era utile perché faceva del danno. Sì, esatto. C'era quando abbiamo combattuto contro streghe? Sì. C'era solo solo uno mancava durante il combattimento delle streghe. È proprio in fantasia. Fanculo, non è vero. È un grande classico dell'animazione. Vabbè, Giulio stava comunque cercando di chiudere le finestre da fuori. Sì. Aspetta, scupone. Ho già ucciso un piccione aprendo lo scuro della... È una storia tristissima. A parte che piccione lì dal freddo. Apri lo scuro schiacciandolo forte contro il muro. Si vede che lui era lì rincoglionito al freddo, sbaglio. Non sai mai, potrebbe esserci un piccione da schiacciare. E niente, è morto. Tipo cosa? Sembra di presentare i fili dell'imperatore. Esatto. E niente, è nell'indifferenziato. Bene. No, le piume non sono riciclabili. Non si riciclano, l'organico si composta. Non si decompone. No, non si decompone, di plastica. No, le piume si decompongono lentamente. È comunque organico. Vabbè. Inquinano di brutto le piume. Il bambino che ha vestito la buttata. Henry, pensavi che non ha le piume. Vabbè, ok. Infatti i capelli inquinano uguale. Allora lo spennavi. Quello avrei potuto farlo. Ti facevi un cuscino di piume. Però no, le piume non sono biodegradabili nel senso del... Sì, non vanno in compost. Comunque sì, è organico. Neanche i capelli in realtà. Però i capelli noi ne abbiamo pochi, le piume ce ne sono tanti. Okay. Interessante. Più che altro io non mi taglio i capelli dentro il cestino, vado da uno. Va bene, non ci trovo un cazzo, era solo per interrompere il cazzo. Bene. Race, chi sei? Cosa fai? Dove vai? In fiorino. Allora, Race, io sono un hipsterino. E me l'ho scritto. Ma questa è una domanda così per rinfrescare la memoria degli spettatori. Vabbè, anche a me. Sono un figlio di gente della borghesia medio-alta e per fare il ribelle fico sono scappato di casa e ho cominciato a rubacchiare per dimostrare di essere un figo. Mm-hmm. Esatto. E adesso però mi sono ritrovato qua. Che ironia, dopo aver rubato. E che cosa fai qui? E qui io mi sono trovato in una locanda. non mi ricordo per... Ah, perché scappavo da... Ah, no, ok. E prima di arrivare qui ho rubato a un tizio abbastanza fighettino un libro che pensavo valesse tanto, perché dalla c'era la rilegatura in pelle umana e quelle sa che si vende a tanto prezzo. Organico. E mi sentivo fico, esatto, organico. Poi l'ho aperto e ho letto strane cose e sono impazzito. Basta, il mio e quando mi sono ripreso ero qui, in questa terra piena di nebbia, con una, in una locanda, e ho trovato sti sbruffoni. Bene. Patk. Allora, io sono Patk, un druido, nano delle colline. Come bei vecchi. E sono in queste terre in realtà perché... il mio ruolo è quello, diciamo, di cercare di fissare tutti i bug della natura, tutte quelle cacate che avvengono al di fuori delle leggi naturali. E in questo territorio è pieno di cose, insomma, insomma, che non morti, cose strane. Posso farlo? Puoi farlo, sì. Tendenzialmente sono buono, quindi insomma anche sapere che avvengono certe cose, insomma, nel indagare non era male. Ho scoperto che ci sono delle streghe pedofile che sciolgono, eccetera, e io anch'io mi sono ritrovato nella locanda e mi sono unito al gruppo, perché quando io e Salva, io e Reza eravamo fuori dal gruppo. No, no, non si vede. Ah, ancora con quella e mi sono unito al loro gruppo. Perché ci siamo uniti pure? Quando è che ci siamo uniti noi? Noi eravamo nella taverna, voi siete parlando, mi siamo aggregati però per una missione in particolare. Volevate aiutarci a portare in salvo la figlia del borgomastro. Si chiama Irina Coglionovic. Irina Bene. Bardistran. Nota che ho pronunciato Bardistran. Ho comprato altre 20. Io praticamente ho inventato un nome che desse fastidio a Katta. Quindi adesso lo cambierai. No. Allora, io sono un paladino umano. E qui dentro sono. Sì. Sto vuoto, a un certo punto della mia vita ho deciso di perseguire degli alti ideali per aiutare il prossimo. Però al tempo stesso l'oscurità mi ha sempre un po' inseguito. E quindi io anch'io a un certo punto ho letto delle scritture che non avrei dovuto. Ovviamente le ho distrutte subito in quanto malvagio, però questo mi ha segnato. Quindi in realtà avevo lo stesso coso, ma ce l'avevo da prima. E vago per il mondo per riscattare il bene, soprattutto in questo luogo oscuro, e con dei miei compagni di viaggio con cui avevamo vissuto altre avventure siamo giunti a Barovia, dove abbiamo sgominato alcune forze del male, e adesso ho trovato insomma sostanzialmente la mia dimensione, perché qua c'è un po' da fare ogni giorno, e quindi penso che rimarrò qua fino a che il conte The Squarish verrà De Ganzarovic. Atanas, contaci. Ciao, ci direi tutti. Mi chiamo Atanas e brucio le cose e uccido le persone. No. La carrozza è bruciata. Non mi ricordo. Sì, l'ho bruciata. Okay. Sono un guerriero. In realtà non ho memoria della mia vita che vada oltre 5 anni nel passato. Oltre 5 minuti precedenti. L'ho ucciso, l'ho ucciso. È un sistema di difesa per non ricambiare niente. 5 anni che vada oltre 5 anni indietro nel mio passato, dove mi sono svegliato coperto di sangue in mezzo a un villaggio deserto, dove non c'era nessuno, con la testa di una bambola lì di fianco, che adesso ho preso come tipo memento e porto sempre con me. Si chiama Isabel. E da quel giorno ho iniziato a uccidere. Comunque mi è capitato sempre. Specialmente degli innocenti. A bruciarli. Meglio se madre di famiglia. A uccidere mostri. Tutta la gente che possa. Mostri inteso mostri. Persona. Mostri umanoidi. Sì. Mostri di qualsiasi genere, anche persone che io considero non meritevoli di vivere. È vero. Erano mostri, stavano venduto il loro cazzo di bambino. Ovviamente. Chi gli ha venduto la droga. Esatto. Ovviamente. Io non mi considero una forza del bene, anzi, sono un mostro anch'io, però uccido gli altri. Ci vuole un mostro per uccidere. Esatto. Ma quindi ci chiede il background perché non c'è l'ASO e così non evitiamo. Possiamo giocare di ruolo. Evitiamo lunghi silenzi. Ma in realtà io questo non ho praticamente un background, io sono abbastanza simile. Beh, il background comunque è la cosa più inutile del D&D. Con queste parole ricapitoliamo che cosa è successo l'ultima volta. Bene, i nostri prodi eroi si sono offerti di scortare Irina in un posto sicuro lontano dall'ombra proiettata dal castello di Zarovich. Mai detto Kata? Strada Bonzarovich. C'è le metafoto. E si sono incamminati in direzione ovest. Lungo la strada hanno trovato il covo delle streghe, della strega che hanno conosciuto al villaggio di Barovia. E come si chiama? Speranzosi di andarla a punire per le sue malefatte, hanno provato ad ingannarla. L'abbiamo punita. No, ricordo una versione diversa di questa storia. Che ma... bellino che è. Hai visto adesso? Che bellino che è. Lo scontro, purtroppo, sebbene il piano ardito. Mi ha fatto un'altra. Guarda che neanche mi dico quando ride. Non sto proprio anche al pubblico. Luca. Ah, si vede, sì. Lazzaro, Luchini. Risposta Ginevra, Giulio, l'apprezzamento dei fan è sempre importante. Giulio, ma in realtà sì, se vuoi potete prendervi i contatti, però considera che avevamo già preso un accordo con Ale. Infatti c'è Ale, non permettere mai. Bene, detto questo, purtroppo nonostante il piano geniale di attirare Vezzo, ma lo lasci parlare, ma che bambino di attirare le streghe. Il cellulare come si fa con gli altri? Io li toglierei dell'Expo. Purtroppo no, perché forse vi servirà il cellulare. Sì. Purtroppo dopo lo scontro, dopo aver avuto l'idea geniale di attirare una delle streghe fuori per gankarla, come si dice in gergo. In italiano. Come, scusa, lo dice in italiano? Per gankarla. Gankarla. Avete visto il mio di 30, no? Sì, sta bellissimo. È tanto bello. L'avrei comprato. Quello che dovrei usare all'università per fare il professore. Bravissimo, lei ha preso 2. Che buon, bravo professore. Che niente, l'hai promosso. 9. 9. Gran professore. Passa la media, non la torno al prossimo appello. 20. Almeno è passato. Comunque Katta stava parlando. Sì, mi sto ascoltando. Vai Katta. Purtroppo vi siete accorti di essere capitati ad avere a che fare con un avversario al di là delle vostre, com'è che dice? Possibilità. Qualcosa del genere. Qualunque cosa, comunque. Fuggite sciocchi. Al di là, un avversario al di là. Esatto. E quindi ve la stavate vedendo parecchio brutta, perché siete stati costretti alla fuga con molti pochi punti ferita rimasti e due streghe incacchiate. Beh, Giulio ne aveva che stavano per assaggiare. In realtà no. Punti ferita è una cosa che mi è rimasta. Io ne ho 12. No, 16, scusa. A un certo punto compare di nuovo la terza strega che aveva usato le sue capacità di spostamento planare per sfuggire al vostro brutale pestaggio, e mentre era lì che stava per incenerirvi, si compone nell'acqua mirabile visione nell'acqua il simbolo d'amore. Oddio, nell'aria. No, Brozovic. Beh, nella nebbia, quindi di fatto nella, dopo è acqua. No, è l'amico di Giulio quello. Niente, un po' di meno che il dottor Acqua, il barone, il dottor Acqua. Il conte Strad Bonzarovic. Strad, che si frappone tra voi e la morte certa. Eh sì, perché le streghe le dice: sti cazzi, li ammazzo io, e loro dicono: vabbè. Le streghe che non sono. Che ha paura di lui, il che ci fa pensare che è un nemico alla nostra portata. Sì, esatto. Pur non essendo loro sue sottoposte, rispettano la sua autorità. E quindi la strega si tramuta in un pipistrello e vola via. Le altre richiudono la finestra del mulino. Non e... tutto, perché Giulio aveva già chiuso alcune. E probabilmente si mettono a spegnere le fiamme che erano state appiccate dal vostro scontro. che io ho piccato per permettere di scappare. Ho dato fuoco all'interno e ho cominciato a chiudere le finestre. Capiti. Strozzi, che merda. Sono un mostro. Che sto facendo? Dopo 5 minuti. Dopo che la... me non me lo ricordo, in 5 minuti cancello. Dopo che Morganta, la strega... Che fastidio, sì. Però. Si volatilizza, letteralmente. Lui sì. Si gira... Volatilizza. Lui si gira verso di voi. Con, accennando un sorriso dal suo volto estremamente curato e dalla pelle molto molto chiara. Curato. Benvenuti, cari. Grazie. Era da tanto che volevo incontrarvi. Ma siamo anche noi volevamo venire a cena. Ma qua siamo ancora all'aperto lì. Sì. D'Italia media. Siamo, non so. Ah, non è tipo apparizione enorme, tipo cosa, ma Cristo nero del di Voldemort. Ma è lui o un'apparizione? Scusa, non ho capito. Beh, di modo per capirlo, non so quale tu abbia, però. Perception. Direi che potresti. Metto la mano così, però poi è lui. Direi che. Puoi presumere che sia lui, però sì, prego. Ma cazzo, siamo lì fuori dalla strada della capanna delle streghe. Al siete mulino. Nel prato che sta in mezzo al mulino e al circolo di pietra, vi ricordate? Quindi lui, di davanti a noi c'è lui, dietro c'è il mulino. Davanti agli occhi ancora il sole, dietro le spalle il pescatore. In realtà il mulino... Il mulino sì, è dietro di voi. E davanti c'è lui. Okay. Davanti c'è lui. Ne hai citato Salvini. E di fianco. E di fianco c'è il circolo di pietra dove vi ricordate avevate lasciato Irina. Ha scritto Arce, sì. Enorme. È Laz. Che si chiama Bayern. Cazzo, metto mi piace. Ma è successo? Arce un ciccione, ha scritto. Sì, allora, venga di questo. Arce, ma gli ho letti prima i commenti dei ragazzi. Cosa vuol dire A? Questo metto mi piace, guarda che carini che sono. I miei amici vedono i miei titti. Eccolo Stefano Gamberoni che guarda. Ciao Stefano Gamberoni. Oh. Bene. Vi dà il benvenuto. Era, vi dice, è da tanto che vi stavo aspettando. Ma una cosa, è lui davvero o vediamo che non è lui davvero? Diresti che è lui davvero. Ok, quindi non è una proiezione, quindi io scapperei come una merda. Era da tanto che tenevo a fare la vostra conoscenza e sono molto felice di avervi finalmente qua nella mia splendida terra. Com'è? Sembra ironico. Ma sembra di sì. Insight. No, purtroppo il piacere non è reciproco. Io comunque faccio un'intuizione. Non si preoccupi, signor Vardistran. Avremo modo di... Come fa a sapere il tuo nome? Ah. Come fa a sapere il mio nome? Signor Stradonovic. C'è stata la presentazione Zarovic. Di tutto il team all'inizio. Esatto, e lui l'ha ascoltata. L'ha vista la diretta su Facebook. Forse qualcuno non era attento, eh? Ah, sì, Barstan. Esatto. Sir Barstan. Vi ho fatti venire qua. Perché sì, vi ho fatti venire io ormai. Dovreste averlo capito. Anche perché vi ritengo delle persone estremamente... Intelligente. In realtà si deve fare casino, se si sente qua. Estremamente intelligenti, estremamente capaci. Ed è per questo che vi ho chiamato. Questo gioco qua. C'è una scritta te lo va. Che cosa ti aspetti da noi, allora? Ho un favore da chiedervi, in realtà più di uno, perché le contingenze purtroppo fanno sempre piovere sul bagnato. Prima di arrivare al cerchio di pietra, quindi c'è anche il cerchio di pietra è ancora lontano, quindi non vedete intorno a voi presenza di Irina né di Bayern. Vi ho fatti venire in queste terre perché ho bisogno del vostro aiuto. Dovete sapere che ho avuto notizia che un cacciatore è entrato nella mia terra e questa persona per me è una presenza assolutamente sgradita. E non come noi. No, poi al contrario, se ma perché? Per assicurarci che è andato bene. La vostra presenza basta rincuorare il mio ormai fermo cuore. E, per cui ho pensato di far venire qua nei miei possedimenti un gruppo di guerrieri, un gruppo di avventurieri capaci e senza paura per liberarmi di questa scomoda presenza. Purtroppo ne recuperei io stesso, ma le faccende di corte mi tengono impegnato, sapete, ho un intero regno da amministrare. Consiglierebbe che tutti i suoi sudditi comunque la temano e la rispettino. Quindi purtroppo non tutti, caro Atanas. Quelle streghe dietro. Solo quelle che hanno abbastanza senno da riconoscere quando un agnello si trova a cospetto del lupo. Mi piacciono queste metafore. Cioè quelli che scappano via. Mi piacciono queste metafore animalesche. Purtroppo questo concetto non è chiaro a tutti. E quindi sarei molto felice di avvalermi del vostro aiuto. Per voi sono in serbo ricompense che vanno oltre all'umana comprensione. La mia generosità è grande. Come lui è un naso. Lui è razzista comunque. L'umanoide. No, per dire che tu magari è un mostro. E ti dà fuoco. Oh. Mostro. Che dico, un deficit di GH non mi faccia capire i soldi. Non ho detto questo. Lui è un nano. In realtà, lui ha detto. Non credo sia un deficit. Che sono oltre l'umana. Che non tu se non sia più basso degli altri. Arci, scusa. Gli altri nani. Lui ha detto che sono oltre l'umana comprensione. Ha detto che forse tu invece poi avresti potuto capire. Perché non sei un umano, stronzo. C'è solo una ricompensa che potremmo accettare. Uccidere tutti i nani. Ah, no, scusate. Ero lasciato. I nani delle montagne, c'è delle montagne. I nani. Ah, razzisti. Prego. C'è solo una rinuncia. Una ricompensa che potremmo accettare. La sua rinuncia a Irina Coglionovic. E lui parla per sé comunque. Cioè qui ognuno parla per sé. Irina. Accidenti, deve essere stato tutto un grosso malinteso e me ne scuso. Malinteso. Proposta. E mi scuso tu per questo equivoco. Vedete, io tengo a Irina come se fosse mia figlia, anzi mia sorella. E dove sta tua sorella? È quella che avete visto a Pisa che indicava la strada. E purtroppo, diciamo, qualche disguido ha portato suo fratello a una divergenza di opinioni, diciamo. E proprio per questo sono venuto qui, per approfittare della vostra presenza in questo splendido lenzuolo di terreno e per chiedervi aiuto anche in questo senso. Purtroppo Irina da 2 giorni è sparita dal villaggio e neanche di suo fratello non si hanno più notizie. Che sfortuna. Come di suo fratello non si hanno più notizie? Io non mi perdonerei mai se qualcosa di brutto accadesse a lei. Non mi perdonerei mai. Ed immagino che la ricompensa per averla ricompensa. Siamo oltre l'umana comprensione. Allora. Straccio. Non mi chiedo il cappellino da. Ma è veramente un cappellino con me? Non no, tira dadi. È da dadi. È la faccina da Abu, ce l'ha. È falso come Abu. Quindi vi sarei estremamente grati se poteste aiutarmi a ritrovarla e a darmi notizie di lei e a farmi sapere che sta bene. E ho dimenticato le maniere, le buone maniere evidentemente. Ovviamente siete tutti invitati al mio castello, dove vi aspettano banchetti e cibo e feste fino al sorgere del sole, ma non più in là. Ecco, vi chiedo solo una cosa, signor Stradovic Van Strad Fuori Strad. Come potete tollerare voi che in questo mulino ci siano queste megere che cuociono i bambini piccoli per fare dei saponetti ancora più piccoli. Potrebbero venire dei saponi, anzi, potrebbero venire delle della droga molto migliore. E i funghetti fanno i dolcetti. Oh, deve vedere che purtroppo, signor Pac, signor, immagino, messere, messere, dottore, dottore. Capitano, la vita, se così si può chiamare, in questo paese non segue il normale corso di una qualsiasi altro posto. E da molti secoli ormai abito queste terre e ho imparato che le cose periodicamente ritornano. E ciò che... Beh, però mi ricordo che con l'Inquisizione di streghe ce n'era un po', E vede ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Cosa? È un druido. Non faccio niente del sonatinoro. No, scusa, mi sono perso. Sì, tutti noi in realtà. Cos'è che resta del mondo? Ha detto che quello che qualcuno chiama figa, il resto del mondo chiama farfalla. Ha detto in modo gentile a lui, visto che lui non capisce una sega, è meglio se sta al suo posto. No, quello che tu gli hai chiesto lo ce l'ho. È la sua risposta. La sua risposta è, visto che tu tutto non va, capisci tutto, va, una tutto va così, anche se poi qualcosa qualcosa, che dall'amicizia nasce qualcosa. Ha detto, non è che perché tu non capisci una sega. Esatto. No, ma volevo la risposta poetica. Fagli la cosa da fare. In questa terra è tutto... è ciclico e si ripete. Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Capito? Visto che tu non capisci un cazzo, per il bruco è una cosa triste, invece per lui è una cosa bella. Quindi, però sciogliere i bambini, comunque, anche il resto del mondo, secondo me, chiamerebbe fine del mondo. 500 anni che non vedo farfalla. Ma... è per questo che vuoi rinè. Vecchia morta di figa, come una sorella. Perché non dovrei andare a va bene, detto ciò, purtroppo però sono desolato. Mi sarebbe piaciuto darvi un passaggio fino al mio castello, ma deve essere successo qualcosa alla mia carrozza, perché non è più tornata da quando l'ho mandata a prendere. A proposito, mi sovviene una piccola questione burocratica ma non vi preoccupate, se ne occuperà il mio assistente per me. Bene. Igor, il nanetto. Il mio assistente Radin tra poco sarà qui e vi Radin. Non ho capito però come ho fatto sapere della nostra presenza su questo Barovia. Ci ha invitato lui. Ci ha invitato lui. Non ti sfugge niente. Come dicevo, seleziono le persone particolarmente intelligenti. Barzani viene anche soprannominato l'Aquila. Perché ci vede bene. Perché mangia i vermi. Che mi vomita nel bocchino. Esatto. Perché la mattina. Ma è il suo cacciatore invece come come lo si può riconoscere? Purtroppo non ho molte informazioni. Si dirà la cosa burocratica per il suo conto. Com'è? Infatti deve essere una persona che sa il fatto suo. Ma già fatto. Sono convinto che persone della vostra levatura e delle vostre capacità non abbiano difficoltà a trovarlo. E la roba burocratica? Oh sì, adesso ci raggiungerà. Ah sì, sta arrivando. Vedete in lontananza arrivare su un... Canta, una cosa, ti dico una cosa sincera. Se io mentre tu parli tirassi dei dadi, no? Prima o poi a un certo punto verrebbe fuori un 20. Okay. A quel punto dice, vai Canta, io faccio una prova di intuizione. Ok? Usando quel 20. Che invece che fare sto giochino, dammi un 20. Diciamo che ho fatto... Mentre lui parla. Cosa vuoi sapere? Volevo sapere se mi accorgo se lui queste sue... Le vostre levature, queste cose qua, bacioni, fatte a mano. No, io faccio insight però. Chi l'ho fatto? Però io voglio fare 20. Che brutta persona. Io faccio insight. Allora, io che cazzo dico? Niente. No, voglio sapere solo se è ironico, se prende per il culo. Ma di certo lui ha dei modi da fare. Grande modo, lo capisco anche se si tirare. Il modo in cui vi sta parlando è chiaro che è un po' pomposo, perché lui è un attimo la definizione dell'essere montato di testa. E, però la capisci anche che comunque nutre un certo confronto, una certa curiosità nei vostri nei vostri confronti. Quindi non è un malesteso. Non è un malesteso. Così. Stavo citando il capo. Malesteso hai detto comunque. Non esiste come parola, credo. Ok. diciamo che puoi capire che è un banco di prova questo per voi. Vuole capire di che pasta siete fatti. Va bene. Che se sta pasta di cui sono fatti su. Delle paste delle streghe. Esatto. Vedete arrivare su in groppa al suo incubo. In che senso? I cavalli mostruosi. Sì, com'è che si... Quelli... Comunque a me il tizio sta sul culo, perché sono un adolescente e mi sembra una figura genitoriale. Quello assolutamente. Quindi? E quindi io non farò quello che dirà. È così sculaccio. Non ti dà la paghetta. Non puoi andare in disco, eh? Straccio. Ma che cavolo si chiama il suo cavallo? Il, quella, quel tipo di cavallo lì... Testa, Rapidash. È Harry Potter è invisibile, però Rapidash. Non so, se tipo quelli di Warhammer sono incubi. Anch'io pensavo fosse incubi. Poi prima avevo letto un nome diverso. Comunque. Vabbè, un cavallo mostruoso. Sì. Cioè, esatto. Ehi, tanto... Atanas, vuoi fare la stessa fine dell'altro cavallo? Ah, a cavalcarlo. È un Dusk Elf, quindi penso sia un elfo grigio, Dusk. No, questo è Cosmo. Sì. È pronto, no. Elrond. Mellon. E ma questo elfo. No. Sì, sono l'elfico. Anch'io. Bella. Anch'io. Congratulazioni. Arriva velocissimo questo destriero mostruoso. E... Quando arriva si inginocchia ai piedi del suo padrone e gli dice: per servirla, signore. E... No, chiaramente. Sì. Così devono funzionare le cose. Nel momento in cui... lo so, stai calmo però. Un po' precario dopo aver scoperto il macchio lunga strima che c'è visto il video. No, quello devo cambiargli lo scotch. Nel momento in cui lui arriva e si inchina, la nebbia intorno a voi comincia a circondarvi. Tra l'altro i nostri fan non la sanno tutta la storia del Longastrino. Vabbè, ma sopravviveranno. Al contrario di Vezzo. I nostri fan sono Stefano Gabberoni, che la sa, Edoardo Saladino, che la sa, l'ultimo Elena Margotto, che la sa. Ma sono online di questi qua? Io dovrei essere online, ma non lo sono, quindi non credo. Anche Francesco Arcidiacono lo guarda. Hai capito? Non sono online. Ah, non sto guardando anche Trump. Ciao Donald! Ben arrivato. Ben arrivato, Radin. Ti stavamo aspettando. Come si chiama? Radin. Donald. Ben arrivato, signor Trump. Radin. Rahadin. Signor Presidente. Costruiamo quel muro. La Hakemut. Prego, svolgi le tue... Aspetto che Arci beva l'acqua, apre la Coca Zero. Non so se la bevo. Allora non bevo. Tu lo vuoi? No. Tu cata vuoi? Ce l'ho. Cici. Vabbè, allora... Ne bevo solo io. Bene, vi lascio in compagnia del mio fidatissimo servitore. Briga pure le tue quisquiglie burocratiche e vi attendo con impazienza alla mia magione, dove potremmo festeggiare e bere tanto buon vino. E sì. Sparisce. Quindi era l'unica ricompensa che gli avevo chiesto. Ha detto: no, ma ricompense impensabili per le persone. L'unica pensabili, però no. Non ti ha detto no, ti ha detto c'è stato un misunderstanding. Era un modo per dire sti cazzi. Ma cosa gli hai chiesto? Che lasciasse in pace Irina. E no, è proprio quello che dobbiamo fare. Cosa? Venderla. È come dire, è come dire, ah, guarda, io, boh, cazzo ne so, io vorrei invadere la Polonia. Ah, vabbè, allora ti posso dare tutto tranne la Polonia. No, io voglio invadere la Polonia, capito? No, credo che i diplomatici vogliono Bene, dopo questo ragionamento geopolitico di altissimo livello. Non era così, non è così. Radin si alza in piedi e apre una pergamena dove legge ad alta voce quello che sembra essere un editto e, molto in legalese. Vabbè, ma se hanno i quattro, cioè non importa declamare, basta che c'è uno che tiene molto alla rutina, la rottura di cazzo. E vi dice ai sensi della legge numero dell'articolo dell'anno. Ma l'articolo 48 bis non me lo ricordavo, non me lo ricordo. Beh, così Radin, io controllerei. Non abbiamo chiesto storia della vita di Radin. Dai, su. E mentre elenca tutti questi commi e queste leggi, la nebbia continua a circondarvi sempre di più. E a tal punto che preferivo le streghe. Non vedete più i vostri compagni. Siete in questo bozzo, cioè, quindi non vedo a un metro, esatto, però senti la sua voce. Vabbè, comunque sono a Patk, non sono a un metro. Ma se cerco di parlarci con i miei compagni, puoi provare, ma non ricevi risposta. E quindi io a un certo punto rispondo: dimmi a casa. Boh, mi siedo. Quindi in questo momento vorrei che state attenti a non scambiare informazioni tra di voi e agiste come se foste in ambienti separati. Dolci. Non puoi, Arci. Riconosco, ho già capito cosa sono. Arci, non puoi mangiarli? Non puoi. Lo so. Mi piacciono questi qua, me li davano quando ero all'elementare. E allora cosa ti prendi in mano? Volevo vedere cosa c'è dentro. Cosa c'è? Vuoi che ci sia scritto? No, vuoi vedere cosa c'è in questo sacchetto? Ma la viola sembra. Hai capito? Prendi. Mentre Ciccino legge, la nebbia ci circonda e ci separa. E non ci vediamo né sentiamo più. È un modo carino per togliere le basta le balle. Anche però è funzionale a quello che voglio fargli fare. Esatto. Siete completamente isolati. Dopo, prima voglio finire questa. Dopo, prima non è che non sarà una cosa veloce, vero? Comunque, vi devo ancora chiamare la Toscanaccia, sì. Cosa è, sì? Non avevamo rimandato ad una data. Sabato a cena. Però questo sabato, è il 19. Avevi anche detto, catta, che bello. Che bello per me, meglio a cena. Sì, fammi controllare. Adesso? Ma chi se ne fotte, vai avanti. Ho capito, ma sto colletto alto così. Era il conte, penso che il conte se n'è andato. Mi cago. Che giocatore! Ma anche meno. E arriva al succo della questione dopo aver letto tutti i commi e tutte le leggi. A seguito della lesione della proprietà di sua maestà il conte, siete accusati di vilipendio alla proprietà di sua maestà. Ma ecco che avevamo i suoi angeli preferiti. Sì, ma questa infatti è una cosa, una pisquiglia burocratica. Infatti la fa fare il servitore. Ma accusati di cosa? Di vilipendio alla proprietà del vilipendio. Cosa vuol dire? Nella specifico atto di accusa si caricano gli imputati dell'uccisione di due cavalli da traino e gli la imputati, distruzione. Lui è stato. Questo lo vedremo. Tecnicamente non li ha bruciati. Distruzione di numero 1 carrozza da trasporto per 6 persone. È stata distrutta ancora là. L'ha bruciata. Non mi ricordo. Porca. Cretino. Vabbè, adesso prendete. Ci sta, io approvo la ribellione verso i genitori. Provo, anzi, molto bene. La canetta della sgozzata di cavallo sta via intanto. Lo so, ma adesso che so che ha dato fastidio al papà, io mi. Come so padre. È uguale, è una figura d'autorità. Esatto. E poi? Guardia di merda. Non ci sono. Birro, piedi piatti. Ora, ricordatevi appunto che siete separati l'uno dall'altro, non potete scambiarvi informazioni. Ma io sto leggendo lo giro di noi. Se tutti quanti sentite la sua voce, ma non vi sentite tra di voi. L'accusa non ha però abbastanza prove per indiziare, per accusare nessuno di voi. Ma sappiamo che il colpevole si cela tra voi. Beh, io aspetta. Ai sensi della legge, mi raccomando, adesso dovete non dirvi nulla tra di voi. Ai sensi della legge del regno, avete il diritto di rimanere in silenzio, oppure avete la possibilità di denunciare il colpevole. Se voi rimarrete in silenzio, gli umani non si immaginano, strigge, no, ci riempite di soldi se denunciamo. No, non soldi, oltre l'umana comprensione, i soldi sono entro. Vabbè. Allora, se uno rimane in voi silenzio. Guarda che falso! Dai, questo è il giochino, è la teoria dei giochi. Esatto. Se voi rimarrete in silenzio, allora, a secondo la sacra legge del regno, la vostra parola a causa vi servirà. E quindi la marcirà. Cioè la parola marcina, cioè la lingua marcina. La parola però è una metafora per qualcosa di brutto, sì. Non è chiaro. Nessuna legge lo è. Mettiti davanti a un difficile dilemma. Rimarrete in silenzio, ma verrete accusati. In quel caso verrete considerati colpevoli e che la signora della notte possa avere pietà della vostra anima. Beh, finché il corpo sta dentro. Chi vi avrà accusato invece godrà del compenso dei giusti. Se però cosa? accuserete e verrete accusati di ritorno, allora in entrambi i casi in entrambi gli accusatori marcirà il cuore. Il modo per beccare una cosa complicatissima. No, è facile, cioè. Quindi se uno accusa e viene a sua volta accusato è un casino per entrambi. Se uno viene accusato e sta zitto è un casino per lui. Se uno sta zitto e basta, è un casino uguale. Quindi tu devi denunciare. E se uno denuncia uno? No, perché tu devi sperare che non ti denunciano. In teoria, se stai zitto è il casino minore, perché comunque allora, non queste sei cose non dovresti poter. Ah, non possiamo dirlo, ok. È la teoria dei giochi, però a prescindere da quello, io sto pensando che cazzo farebbe il personaggio. Se volete io vado di là e lo faccio per ultimo, ok. Vabbè, comincia. Basta che mi scrivete in privato. Io sono sincero, ci siamo conosciuti. No, privato. Scusa, beh, dai, facciamo qua. Oppure non è mica 3 mesi che uno fa apposta sentendo quello che dice l'altro. Cioè, comincia a darci, va? Esatto, esatto. Io vado per ultimo. Scrivetemi in privato. No, non è radiofonico. Figurati se imparo a scrivere per sta cazzata. Bendatevi, scrivetemelo su un bigliettino. Non è radiofonico. Dai. Chi va? Dini uno a caso. Facciamo in ordine alfabetico, dai. Atanas. Però scusa, ha detto la pena per il colpevole. Buona sì, ha detto la signora della notte abbia pietà della sua anima. Non solo se uno veniva accusato e accusato se viene accusato e tu non accusi nessuno, allora sei tu il colpevole. Se ne sono degli altri a mangiare, siamo pieni di dolci a mangiare. Quindi io sono il primo. Non so, in realtà appunto dovreste farlo separati. Dove va? Dovrebbe essere. No, siediti, tanto dura cioè, poco. O ce ne andiamo tutti e voi rimanete qua, oppure non puoi fare. Cioè, se abbiamo una diretta, vabbè, non si ascolta nessuno, però. Esatto. Allora al 3 lo dite. Ma cosa? Ognuno, cioè, non siamo in grado di... Io ho già deciso. No, anche io ho già deciso. Tanto cioè, vado di casa. Se vuoi te lo scrivo, così quando tocca a me lo cambio. Vabbè. No. Ognuno lo scrive e poi lui le legge tutte davanti agli altri, va bene in realtà. Sì. Possiamo fare così. Va bene. Quindi potete okay. mandarmi un messaggio in privato e io li leggo. Beh, io lo scrivo sempre. Sembra la cosa più semplice. Però la mia è un po' più complicata, non è che scrivo un nome fine, cioè io voglio un po', capito, articolarlo. O ti avvali della facoltà di non rispondere o accusi il colpevole, quello che secondo te è il colpevole. Sì, però non è che dico un nome, basta, parlo. Va bene, parla, scrivi. Ti ho mandato, fatta. Ma che ti ho salvato io? Guarda in Thunderwave, sì, sì. Ci sta, è il personaggio. Ok. Allora Sallamore. Allora andremo in guerra. Tagliatemi. Sto male. Ok. Poi non te lo dico a voce, non te lo scrivo. Sta scrivendo. Vabbè, il giocatore dice da prima. Ok. È stato Arci. E scusa, è l'As e Sceo? Loro muoiono il default. Ah sì, mi sono scordato la scena di Sceo. Ecco perché vorrei che fossimo pari. Quando è arrivato il conte, Sceo è andato in Berserk. Avremmo tutti potuto accusare Laz che non era lì. E ha cominciato a emettere dei versi animali. Ah, invece c'è Sceo, allora aspetta, cambia nome. E tipo, ha fatto per caricare il conte che l'ha guardato negli occhi e lo ha ammansito e adesso ha cominciato a brucare l'erba. Ed è lì che brucia. Di questo Sceo. Ma noi non possiamo vederlo, scusa. Ha detto che c'è un quando è arrivato in campo. Ah, no, questa cosa, ma mi sa. Lo vediamo, non è un caso. Vabbè, vai. Io dico vabbè, ammetto le mie colpe, sono stato io. Ok. Traviato da le parole del borgomastro. Ok. Pensavo che le intenzioni del barone non fossero sincere. Molto bene. Chi è il borgomastro? Il fratello di Irina. Cioè lui non solo ha ammesso, ha già chiesto scuse, capito? Lui è avanti. Nel dubbio, esatto, ha messo le mani avanti. Beh, hanno sconto di pena. Se... Sì? Se ne sì. E anche dei peli sulla lingua, ma questo è un altro discorso. Vai, catta, okay, comincia a leggere. Okay. Quindi, cosa succede? Devi anche leggere, però. Non c'è quello che giù la confessasse. Cosa? Devi leggere quello che ti abbiamo mandato noi, però. Ah, certo. Perché sennò non è per niente radiofonico. Hai ragione. Quindi, il buon Race, rifiutando l'autorità impostagli, urla: spie, delatori, merda, a morte le guardie. Volconti Arbastro. Esatto. Nuovo cookie. Mentre il buon Patka non ha dubbi sull'identità del colpevole. È stato uscito. Scusa, Atanas. Ah, è bravo. Vabbè, io conosco da una giornata. Sono un druido, ammazza il cavallo sgozzandolo. Cioè. Tu devi stare neutrale. Beh, raga, comunque. Idolatori, merda. Vez, chi è merda? Avendo lo stesso personaggio di Salla, risponde: ma maniera sincera. Cosa hai detto? No, ma non riconosco. Cioè, quindi tra lui che viene incarcerato, voi che venite ammazzati di botte, leggere. Non riconosco le leggi di questo stato malvagio e non ne accetto la sua supposta giustizia. Però devi fare che mi di rispondere a questa giustizia. Supposta. Questa supposta. Giustizia. Cioè, questa giustizia è messa sopra il culo. Esatto. Bene. Quindi... tre colpevoli, due di un nuovo reato. Ho capito, pensi di essere migliore, invece sei il peggiore. No, beh. Per cui... Però tanto con tutti i soldi che mi danno, sia... magari mi pago la cauzione. Sì. Sia Race che Vardistan non parlano e non vengono accusati. No, no, io parlo. Parliamo. No. Però cioè, non accusiamo nessuno. Non accusate nessuno. Anch'io parlo. Beh, tecnicamente per accuso cui... lo Stato. Esatto. No, non accuso lo Stato, accuso lo stronzo che fa eseguire... Cioè, che poi. Picchia... Accusa l'esecutivo. Va bene. Per è ben cui, diverso. Per le leggi di Barovia, la vostra parola, quindi... può anche non servirvi se la dovete sprecare in questo modo. Come? Sentite il vostro volto che si fa sempre più ruvido. Che faccia di merda che sono diventati. Quindi moriamo così? La barba vi cresce e si imbianca. Vi vengono fuori rughe dove prima non c'erano. E sentite qualcosa in bocca. Che ironia, dopo aver mentito sono stato punito. Poi maledizione ce l'avrai. Sentite che cos'è, no, e ritrovate un dente in mano perché le vostre gengive si sono un po' ritirate. Siete invecchiati di botto e vi sentite spossati. Per cui diminuite di 30, ok. Che è così, cioè, è troppo potente. Avrà rimuovi maledizione verso San Paladino? Ma è livello 3. Vabbè, ma è basso. Ma no? Allora, vediamo chi è stato il più... Race, diminuisci il tuo massimale di punti vita di 6. Ah, di punti vita. Ah, andiamo sotto agile. No, il massimale. Io svengo. Vardistran di 5. Vabbè, svengo uguale. Siete stati quasi insolenti uguali. No, quanti punti vita avevi? Avevo 23 punti vita, meno 6, e però 20 ferite, quindi le ferite superano i punti vita. No, sì, ma tu, queste qua rimangono uguali. Semplicemente il massimo è 17. Però io ho 20 ferite, quindi vado giù. No, conta come sto messo 3 di HP. No, hai 3 su 17 o posso vedere? Hai 3 su 17 invece che 3 su 24, capito? No, perché voi contate al contrario, le ferite sono. Cioè, sono ferite, non sono punti ferita persi. Cioè, non è che io ho un massimale e perdo quello in ferite, io ho massimale e ho tot ferite. Le ferite rimangono quelle, il massimale sì, diminuisce. Ma se dice che diminuisce solo il massimale, significa dire che non è come dire, io sono molto. Come io ho un incantesimo che ti impedisce di curarti oltre tot, perché ti diminuisce il massimale, esatto. Ma non è che... È come dire, tu rimani uguale, ma quando provi a curarti non arrivi al top, capito? Cioè, ti curi e non arrivi al top. Cioè, non è come se ti avessi tirato una mazzata. Non è invece... Vabbè, allo stesso discorso si può dire, 5, ho abbastanza ferite da dire che non riesco a sopportarle. È lo stesso discorso. Beh, vabbè, se vuoi venire, ma quale influenza? Comunque sei comunque molto spossato, non è una cosa tanto leggera questa. Perché, capito? Cioè, non è che posso cambiare anche il numero di ferite. No, ma quelle rimane uguale. Allora se è uguale 17-20 io sono sotto. No, perché tu sei uguale con questo come prima. Semplicemente quando provi a ricurarti. Ok, ma quello che dico io è che in questo modo lui mi ha tolto anche 6 ferite che ho. No, perché no, ho detto di no. No, quindi vado giù. Io ho 20 ferite e 17 punti ferita massimo. Sì, in teoria la... vado giù. Sì, perché tu lì quello conti in ferita, sì. Ma conta come punti ferita. Ma si può fare una prova? Sei comunque... si conta come ferita. Sei comunque svenuto, ma sei stabile. Ok, sì, quello si può stare. Come scusa? Si contano ferite in medicina. Sì, punti ferite attuali. Poi però, quando tu metti punti ferite attuali. Adesso quando finisco questa cosa sì, puoi provare a fare tutto quello. In teoria le ferite dove allora dovresti toglierle. Cioè il massimale rimane lo stesso, tu accumuli le ferite. Non è che togli punti vita. Patka ha accusato Atanas. E basta, non ci toglie caratteristiche? Cioè, ma ti tolgo anche quelle. No, in no, teoria no. Starebbe dei meno in forza, destrezza e costituzione. quelle pensavo di fare invece così. Chi ha accusato il colpevole? Il, vabbè, in questo caso chi ha accusato il colpevole? Adesso arriva. Che Pat ha accusato il colpevole e non è stato accusato. Quindi è vincitore morale. Esatto. Per cui. Perché io ho già la barba, ce l'ho. Avrà il premio dei giusti. Ecco, parliamo un po' di questo premio dei giusti. Il premio dei giusti è il punteggio di forza di Atanas diminuisce di 2 e tu puoi aumentare di 2 un punteggio a tua scelta. Ah, di caratteristica. Oh, bravo, complimenti, vantatene. E allora accusiamo gli ebrei nascosti nelle case, no? lo stato nazista ci dà dei premi, però, poi gli ebrei crepano. Oggi ce l'hai con... No, è che ho giocato a... A cosa? A Secret Hitler ieri l'altro. Questo è Remove Curse. Esatto. Atanas è stato accusato, ma anche lui ha accusato... Terzo livello. Qualcuno, che in questo caso era se stesso. Allora, sempre tu. Per cui... Ma non so se si può togliere sta roba, guarda che non sarà una maledizione. Ma sì che si può togliere. Tutto su chi lo sa. Appunto, a colui che accusava e veniva accusato, marcirà il cuore. Non suona bene. Sì, però lui, scusami, non ha accusato. Cioè lui non ha un cuore. No, lui ha accusato. Se non è stato accusato di rimanere. Tu lo hai accusato. Sì. Ma lui ha accusato se stesso, sì, che è colpevole. Quindi c'era un bonus per la confessione. Sì. Non è stato accusato. Sì, di terzo livello. Però è secondo me non per me. Quindi dobbiamo essere al 6. Lui è stato accusato. E quindi gli hai dato la penitenza. E quindi adesso marcerà il cuore. Comunque. Però anche lui ha accusato. No, ce l'ho al terzo. Il colpevole. Chierico lo prende al quinto. Quindi. Quindi. Gli verrà. Diciamo, potete, lui può intuire che in qualche modo gli viene riconosciuta la sua buona volontà nel attenuante. Voler attenuanti generiche le sue colpe. E non puoi scrivere con quelli. Quindi, nonostante si senta il petto pesante, i suoi muscoli appassiscano. Cioè, ho già preso meno 2 in forza, comunque faccia fatica a respirare e diminuisca di 7 i suoi punti ferite massimali. Questa sua condizione, diciamo, lo rende un po' più consapevole, più che consapevole, insensibile, diciamo. Ha meno sensibilità meno di quella che aveva prima. Sì, di quella che aveva prima. Nel senso che magari adesso non so se lo sa, però probabilmente lo scoprirà. Si sente più in grado di incassare e sopportare cose come veleni e soffocamenti. Quindi quindi oddio, puoi aumentare di 2 il tuo punteggio di costituzione. Figo. Sì, sai quando prendo un incantesimo al terzo io, salva. Vabbè, c'è l'as. Un buono livello. Quindi. Ma quindi mi aumenta anche il massimale dei punti ferita. Aumenta anche il massimale dei punti ferita. Aumenta o diminuisce? Mi diminuisce e poi però mi aumenta per l'aumento di costituzione. No. Però diminuisce a forza. Mi diminuisce di più però. E tu non usi la destrezza? No, uso la forza. Ah, quindi una volta che uso la forza. Quindi andiamo a 25. E quindi mi dici che ci ha rimesso su quelli che hanno fatto la cosa giusta? Sì. Sembra una cosa corretta. Sì, ma il problema è quello che questa insegna... la dice lunga sul Conte. No, questo ti insegna una cosa, che quelli che fanno la... Ah no, perché loro fanno la cosa giusta? No, no, noi abbiamo fatto la cosa giusta, ma e sono quelli che ci abbiamo fatto la cosa giusta da un punto di vista... morale. No, no. Io anch'io ho fatto la cosa giusta, mi sono autoaccusato. Sì, però avevi fatto la cosa sbagliata prima. Vabbè... Io non era lui, ha chiesto l'infermità mentale. Da un punto di vista teorico, abbiamo fatto la cosa giusta. Da un punto di vista, morale, economico, abbiamo fatto la cosa giusta. Tuttavia, questo ti insegna che se gli altri. Da un punto di vista morale abbiamo fatto la cosa giusta. Questo ci insegna che il Conte è un po' una merda. No, dal punto di vista morale loro hanno fatto la cosa giusta. Noi abbiamo fatto la cosa giusta. E loro hanno detto la verità. E noi non abbiamo. No, noi lui ha detto la verità. Lui abbiamo, ha fatto una cazzata. Noi abbiamo non abbiamo detto. Non lui ha fatto la spia, non è una cosa giusta. Lui ha fatto la spia. Beh, regà, allora chiunque confessi un omicidio ha fatto la spia. però sì, il concetto. Però poi ha fatto l'omicidio e quindi viene condannato. Però qua c'era la cosa. No, è stato condannato. No, infatti. Se tu ammazzi qualcuno e uno ti vede e lo dice, non è che lui è una merda perché fa la spia, lui dice la verità. Però il concetto è tu, cioè, rispetti le leggi di questo posto. Però non no, è che viene punito. Sto dicendo che ha ucciso un cavallo, però non viene punito. Cazzo è successo? Cioè, se tipo tu vedi uno che ruba e lo denunci, certo, non vieni premiato. No. Perché è tuo dovere civico. Allo stesso modo, se tu non lo denunci, non vieni punito. Però se lo scoprono, sì. No. Sì, se tu, se scoprono che tu vedi una cosa, cioè, non è una complicità. Tu vedi un reato, sì, vabbè, ma sei una spia, allora sei una... Considera che però tu non è che qua vedi un reato, qua sei uno tra i possibili indiziati. Cioè, io sono messo sul banco degli imputati come colpevole. Non è uguale, Salla, cioè... Basta, spia di merda, contro il sistema, cazzo. È caduto un senso qua dietro. Pezzi di stronzi, boh. Denunciate un amico, un compagno, bravo. Nel gioco io l'ho conosciuto la sera prima. Chi se ne frega, il sistema. È passato qualche giorno. Sì, no, in quei giorni gli hai ucciso. È come dire, è come dire, tu sei insieme al tuo amico ladro, siete andati a rubare una gioielleria. Il tuo amico ladro ha sparato a uno durante la rapina. In realtà lui quando vi arrestano? Lui l'ha ucciso gratuitamente il cavallo senza motivo. Vabbè, ho capito, però quando lo arrestano tu dici "Sì, è stato lui, l'ha ucciso lui". In realtà quello che ci compare è sostanzialmente Giulio, perché se Giulio non avesse detto niente non so cosa sarebbe successo. Cioè se sarebbe stato accusato. No, no, noi non sarebbe cambiato niente, perché lui ci aveva detto se state zitti le prendete, quindi ci sta. Se tutti stavano zitti, però no. Sì, le prendevano tutti. Ah, sì? Vabbè, lo abbiamo fatto bene. E poi il gioco ovviamente spinge a far accusare gli altri. Se tutti accusavate me, abbiamo detto di più a qualcosa. Ah, sì, è vero. Vabbè, tu avresti meno 6. No, magari non c'è di che, Magari non era accumulabile. Sì. Bene. Vabbè, siamo diventati un paladino ancora più scarso. La nebbia si dirava. Sta merda. Due di voi stanno molto male. Io sono per terra, io sono venuto. Esatto. Io non so quanti sono. Quindi è uno in realtà. Ah, quindi ciao. Bacioni. Bacioni, esatto. Mi ha piaciuto la matita. Sì, la vedo. Ma ancora lì l'elfo. Ah, l'elfo quando la nebbia si dirada è salito in sella e vi saluta da sopra la sella e vi dice: "Dì al tuo padrone che è così, però non riusciremo tanto facilmente a trovare il cacciatore". Volere del padrone, nobilissimo conte imperscrutabile. Lui sa che se c'è una strada da percorrere è fiducioso che la percorrerete. E se lui non hai capito ciò che per il bruco è la fine. tra le ricorse, se gli dai dietro le linee, secondo me ti dà tutto quanto. Guardaci cos'è la buca. Ma scusa, ma che cazzo è? Più due po'. Ma che persona di merda sei? Se gli vendiamo le linee, più due po'. Ma capito, ma che persona di merda sei? No, scherzo, fammi che non la vendiamo. Ci metto anche il talento amico del conte. E vabbè, è un bonus così. Quindi? Mangia anche questo cazzo che ti voglio. Non so se hai capito che in questo caso Katta voleva essere detto bidone del rusco. Esatto. Vabbè, niente, vabbè, fate voi, io sono per terra. Anch'io. Ah, nebbia si dirada, cioè salla. Che ironia! Ironia cosa? Beth è ancora in piedi, ma è molto barcollato. No, no, io sono peggio di okay. Salla, mi sa. Beth e Salla sono svenuti. Però sì. Io ero uno. Ah sì, allora si sei peggio di no, allora. Sì, è più grosso di prima. Vedo che... Sì, tra l'altro, si è messo un P2 in? Forza. Selezione. Ah, si è messo un P2 in. Ah, ok. Per solidarietà, Giulio. Athanas è un po' gobbo. Un po' curvo. Beh, ha perso 2 in forza, non 50. Mm. Ah, è cuore marcio. Ho perso sì. Anche punti ferita. Beh, più pallido in volto. Ripresi. Non ho ripresi 3, non ho persi 7, non ho persi 4. Perché 6? Come mai sei una bobo? Non ho guadagnati 3, ne ho persi 7, ne ho persi 4. Devi vedersi 6 con la cosa. No, persi 7. 7. 7. Per cui avete avuto un assaggio di come funziona il sistema giudiziario della ridente terra di Barovia. Ma ora ci vabbè, okay, sono svenuto, quindi qualcuno deve curare. A proposito, siete quindi lì in mezzo tra il mulino e il cerchio di Piese. Cioè, adesso la mia forza è uguale alla mia destrezza, torno a fare il guerriero con la destrezza. Due di voi mi sono a terra. Tra l'altro, non so se no, forse non posso pensare l'armatura. Per questo era gobbo, mi ha faticato. Beh, però c'ha l'armatura. Quindi noi siamo indosso. Ci vuole un punteggio di forza per la natura. Qualcuno è sì. Pesante. Ma loro sono andati solo tipo in faccia, no? Ah, vabbè. Siamo anche morti. Sono, sto anche dormendo, sai per questo, ma... Nella loro bocca... Nella loro bocca emana un fettore. Ma siamo stabili. Va bene, che facciamo? Siete stabili. Passiamo al tempo. Che ironia. Dopo aver infangato il sistema giudiziario, sono stati quindi dallo stesso. Ah, no. No, l'armatura riesco ancora a usare. Giulio, non avevi tipo 18 prima in forza. Sì, ma io ora se fossi Giulio ti riempirei di mazzate. Mentre l'hai denunciato? Non lo so. Non lo sa. Qualcuno lo sa. Ho capito, noi siamo quelli moretti, tu sei quello. Vede solo tipo noi così. E altri tipo. Ma secondo me quei due mi hanno denunciato, è per quello che sono stati con la sbilletta di best friend. C'è la cosa, la gente del conto. Guardia. Hai 4. Giuda of the year. Esatto, con 30 mezzi d'argento. Quindi hai 3 punti ferita. Come va? Com'è? Giuda of the year. Ma glielo posso dire, dico, mi spiace Athanas, ma c'è anche un nano lì di fianco che sta bruccando l'erba. Mi sono diventato più insensibile di prima. Quindi lo ammazzo. Passivo. Va bene. Allora, qualcuno ci va bene. Ma lasciamo che. Io non ho cuore. Vabbè, allora aspetti alla notte e vediamo che cosa succede. Spostateci almeno. No, ho forza 14 adesso. Mi supplico, spostateci almeno. Non posso dire niente adesso, non decido allora. Cosa fate? Cosa fate? Con i miei nuovi poteri. io metto la spilletta a guardia. Belli cura, dai, faccio quella fitta entrambi. Ah, è vero che lui in teoria è un bastardo. In teoria sì. Per me. A entrambi Giulio e la capra. No, gli faccio quella fitta loro due. Sette a Salla. Posso ritirarlo? No, che beh, nove, nove a Vez. Vabbè. Si risvegliano. Tossendo. Scarracciando. Come è andata bene. È andata bene. Mi sembra un'ottima cosa. Mi sento così vecchio. Non sono ancora forte. Dietro di voi sentite nano che si toglie un filo d'erba dalla bocca e dice: ragazzi, cosa è successo? Ma che brutte facce che avete. Comunque io gli tiro una spadata. La cosa migliore era attaccare coso e saltano mutati momentaneamente in dei bovini che brucavano senza subire nessun processo. Beh, lui è però su di lui è stato, scusami, lui era nel gruppo l'altra volta, abbiamo ucciso il cavallo, nel senso che c'era anche scendere la sessione ed è giusto che subisca il processo, secondo me. Quando tornerà, sì, no, ma lui è denunciato al 100%. No, lui conta, secondo me, lui dovrebbe essere messo a processo, ma in più deve rimanere capo, quindi cosa dici? Beh, non conta. Ah, ok. Lui ha subito un altro trattamento, perché appunto è posseduto da questo spirito delle capre. Gatto, c'è una cosa che non capisco, cioè lui sa dove siamo noi, ma non sa dove è Irina. È strano. E non sa neanche dove è l'aso, che è nato in Irina. È strano. Andiamo a vedere come stanno. Torniamo al circolo. Ma lui è svanito adesso. Spostiamo il suo luogo. È risalito sul suo cavallo e è tornato a casa. Il cavallo era ancora vivo. Oggi lui è riuscito a finirlo. Non era un cavallo, era un destriero. No. Provo a fare. Sono un mago molto figa. Assume e Salla una prova di medicina. E anche, vabbè, anche su Giulio. Già. 6. Sembra un'ottima scelta. Sembra una pessima condizione la vostra. No, migliorabile. Oh, grande, sei un medico. No, sono un cazzo di paradiso. Cazzo, la fai? Prova a farla tu. No, non sapresti come. Stavo guardando. Ti serve un consulto di qualcuno di più. No. Esperto. Magari tipo l'AS che non c'è. Qua si garantire. Il mangerò solo il bonus di saggezza. Vabbè. Chiamo più 3 però. Comunque il druido che ha più costituzione di saggezza. Classico druido. Mi è scivolato male. Quel 2. No, non è 2, era. No, 9 più 3 è 12. Che è il doppio di 6, Sì. Hai fatto 2 lui 1. Purché. Ho fatto una roba che non devo fare. No, non il tessuto che è oggetto di questo deterioramento va rimosso. È ancora vivo, non è cancrena, diciamo. Sono un po' invecchiati, sono morti. Che sono invecchiati solo in quella zona. Solo nella, quindi nella qui faccia. Sono così con la torcia. Sala con un dente. No. Che ti alito in faccia. Sono fatti la scelta. Non è, non è una cosa naturale, ovviamente. È strano che un ragazzo di 14 anni in 20 secondi cioè invecchiato. Esatto. E tu hai fatto per le nuove edizioni? Non ce l'ho. Hai fatto le nuove edizioni? Non ce l'ho. Vez, ma è una roba di altissimo livello. Quinto per l'AS. Anche per te. No, per me nono. Incantesimo è di livello 3, no? Sì. No. Sì. Sì. Ma io lo prendo al nono. Non so se tu lo prendi. Io al nono, quindi. Per le conoscenze che hai, non ti sembra possibile. Aspetta. Che venga rimossa in maniera semplice. Ma forse può esserci un modo per poterla trasferire. A qualcun altro? O un'altra parte del corpo, insomma. Ma non sapresti come. Ma me la tengo in faccia qui. Io dico, forse c'è un modo per trasferirla a un'altra persona, a un'altra parte del corpo. A posto, ci vuole un incastro però. A posto così. Grazie, come se avessi accettato. E invece la posso fare la stessa prova su, cioè a Giulio, per il fatto che lo vedo Ho considerato il fatto che tu avessi controllato. Ah, quindi anche il trasferimento dei tessuti è la stessa cosa che Giulia? Non so, non hai idea di come si potrebbe fare, però pensi che qualcuno di molto esperto, magari, con le giuste attrezzature. Allora io dico, riferisco questa roba a loro. Dico, magari al conte Fuoristrad, se troviamo questo cacciatore, lui può darci il metodo per togliere questa. Scontiamo i pensieri, paladino. Ma sto quando ce la fa lui. E prendo mezzo per la barba. Ci sono una cosa da fare ora. Non puoi parlare così sempre adesso. Trovare il cacciatore. Tu comunque non hai la voce normale. Trovarlo. Non capisco. Potremmo andare direttamente al conte e chiedergli. Trovare il cacciatore. La scaccata. Trovare il cacciatore. Guarda che tu non hai l'incantesimo per cosa. Trovare il cacciatore. Trovare il cacciatore. Stai bene, non è solo la faccia. Come che si chiamava quello che è arrivato? Perché lì? Chiaramente Radin. Tieni un Radin in compresse. Chiaramente il cacciatore è un nostro potenziale alleato. Se sì. Non è il cacciatore, però cosa sappiamo del cacciatore? Dobbiamo trovare il cacciatore. Non ci ho detto niente. Cosa caccia il cacciatore? Il cacciatore. Ad occhio ti direi che caccia. Perché abbiamo preso anche l'Alzheimer galoppante comunque. Oltre al tessuto. Mi piace usare anche in omaggio. Peccato per i 5 punti. Mi piace ora il mio personaggio. Non tutti hanno la fortuna di cacciare. Il tempo non è stato un galantuomo. Il cacciatore, cioè. Eccolo. Allora, Irina c'è o non c'è? No, dove siete voi non lo si vede. Stiamo andando al cazzo. Andiamo verso il circolo polare artico. Questo era Radin che arrivava sul suo cavallo. Madonna, ma sono tutti elfi. Sono tutti elfi. Stavo per dire una cosa politica lì. Sì, esatto, sarà comunque mettiti anche nei panni nostri che siamo di livello 13 questo qua che ci comincia a puntare. È ovvio che non è che mi c'è una cazzata. Basta, sei zitto, non è che devi giustificare le cose. No, no, è che dico, tu sei se un giustifichi vuol dire che sei consapevole che dico hai detto solo, una cagata. No, no, no. Dico solo che invece di essere un vecchio deprepito che è svenuto, ora io sono molto più forte di prima. Quindi... Fatto bene. Perché mi sembravano degli elfi bianchi. Guardate loro. Ho pensato che alla fine se ottenevo maggiori poteri era un bene per la compagnia. Beh, adesso non, lui arrivate al circolo di pietre e non vedete la presenza né di Irina né. Ecco, questo è un problema. Coglionovic! Che cazzo sono andati? Che trovi all'asa anche quando vai. C'è, fa casino. Bellino. Perception. Vai. Boom! 22. Ci sono delle tracce per terra. Ci sono delle tracce per terra. Due mi sembra un'ottima idea. Due umanoidi. Si era già caduta. No, no, che... no, non era caduto. A un certo punto cominciano a correre velocemente verso la foresta. Mi ricordo qualche film. Quale? Il Signore degli Anelli. Si vedono le impronticine degli Hobbit. Cioè, non si vede un cazzo, però noi ci fidiamo di Aragorn, noi diciamo che vediamo. Vabbè, no, ma Aragorn mentre le segue, gli compare il film con quello che è successo, quindi lo vedo poi. Quel calcio in elmo ti rompe in piede come ha fatto Viggo Mortensen durante la ripresa. Era così imbranato. Vedete che quel calcio all'elmo di Rukai fa un urlo bestiale. È l'urlo bestiale che si è rotto il piede. Nel film succede? Sì. No, mi ricordo. Cioè, nel film non si rompe il piede, nella realtà tipo, si rompe il piede. Quello che fa Sam si è tipo impalato su dei vetri nel lago. No, il piede si è appestato un vetro e gli ha trapassato il piede. Perché? È perché c'era un vetro che non hanno visto e lui aveva le protesi dei piedi da hobbit e quindi è un appestato e gli ha trapassato. Io so che anche Frodo, l'attore che fa Frodo, quando quello che fa Smigol gli ha morso il dito, gli ha strappato veramente. Che io so che l'attore che fa Frodo vede il suo cane e gli parla anche. Anch'io. Non era da seguito. Bene. Vai, andiamo a combattere. Come si chiama? Però a un certo Wilfred. Punto Wilfred. Si aggiungono delle altre serie di tracce. Di che cosa? Urukai. Lupi grossi. Il cacciatore. Scusa, i lupi non sono servi di Strand. Il cacciatore sarà un cacciatore di vampiri. Che lupi sono? Posso fare una prova di qualcosa? Sì. Conoscenza natura? Sì. Oh, brutto questo 20. Tre. Tre. Lupi grossi. I lupi sono lupi. Te, già tanto che hai visto dei lupi, guarda. Te lo dico. Va bene, allora faccio io un tiro di sopravvivenza per sapere chi, come quanti, si come e dove sono. È arrivato meglio in button qua. 7 ho fatto, tu quanto hai fatto? 3. Più bravo. Intelligenza. Beh. Io ho fatto 7, quindi... Il doppio. Più del doppio. Puoi continuare però a seguire le tracce. Sì, noi stiamo, beh, stiamo seguendo. Le finiamo, magari faccio, esatto, ogni tanto devo fare ogni tanto prova di perception o ti posso dire che sono allerta e uso la mia passiva? Se fai la prova, fai la prova. Però se appunto. Beh, io seguo le tracce, quindi evento, però sono allerta. Io ho bisogno di. Non puoi diventare un animale. Comunque, a parte lì il cicino tradituro, siamo a merda. Cioè, nel senso... Scusa, non puoi diventare un animale. Tradituro, Giulio, non è la stessa cosa che hai detto. Non tu, ti devi giustificare. Io, anzi, sostenevo la tua tesi. Tradituro. Andiamo, ragazzi. Sì, lì dicevo, non puoi diventare animale e seguirle come animale che sei più bravo. No, perché ho usato già le mie forme. Ah. Traditore o un traditore, comunque abbiamo fatto il riposo breve noi. No. Ma quindi ma quindi sono andati via per te? No, mi sembra ci sono andati via, hai visto le tracce di non ho capito, quelle dei lupi sono davanti alle loro di fianco o come se loro fossero scappati dai lupi? Come se loro fossero scappati dai lupi. Come se loro fossero scappati dai lupi. Allora ci dobbiamo muovere. Allora li inseguiamo. Bene. Seguite le tracce finché lupi arrivate. Grossi però, perché ho tirato 3. Che lupi invernali forse? Dopo te lo dico. Ma non è che puoi riprovare la prova di peggio. Ho tirato. Guarda, vuoi che la rifaccio come era meglio prima? Era meglio. Non vuoi che rifai. Arrivate ad una radura e cominciate a sentire il pianto di una donna. Ah! L'asia è morto. Koglionovic. Vabbè. No, non è morto. È volato a soffio. È volato a soffio. Ottima. Beh, perception per capire se la donna è la tizia. Ecco, andiamo verso il pianto. Arrivate, ho capito. Riversa per terra la figura del buon vecchio Byron, insanguinato e... Bellazzo. E morsicato, e sopra di lui c'è l'inconsolabile Irina. Addirittura inconsolabile, cioè lo conosce da due giorni. Lui a terra morsicato, e lei rega. Sopra ma mentre noi... è stato lei. Ma mentre noi eravamo a combattere, chissà che cazzo hanno fatto questo. Sì, capito? Non è che sia passato tanto tempo. Che altro no, c'è una roba che non mi torna. Portiamola al tribunale, abbiamo dei borsoli. Perché lei non ha un graffio? Lei sembra appena uscita dalla pubblicità. Sì, a parte quello non lei non ha un graffio. Non mi torna neanche il fatto che comunque, a parte che lei era cazzutissima nelle cose. I lupi sono morti. E la svaga. Non vedete cadaveri di lupi. È un mannaro. Ci sono le... No, è strano che il conte sa esattamente dove siamo noi, ma non sa dove è lei. Quindi uno non di sa noi... neanche dove chi era insieme a lei. Quindi uno di noi cinque... è un traditore. Mi sembra Giuda. Sì, ma nessuno di noi ha detto niente al conte. Però il conte sa dove siamo noi, ma non sa dove è lei. Lei è con Laz, siamo solo noi cinque. Come fa se per poi magari sono grave quel cazzo di incantesimini per essere allora è per però Laz doveva vedere. Allora le possibilità sono due: o quello che è stato premiato o quello che non è stato punito. Quindi no, secondo me è stato lui. No, non sono io. Ho capito, però cioè, oggettivamente è l'unica spiegazione. O il barbaro o il druido. Sì. Tutti i druidi sono stati puniti. Quindi. Scusa, pensi che ti ha ammazzato il cavallo. Laz era con lei, quindi in teoria se vede tutti noi dovrebbe vedere anche lei, perché c'era Laz. Ma invece no, ha visto solo noi cinque. Quindi noi cinque siamo... cioè uno di noi cinque è la spia. Ah, forse ci ha visto attraverso i pipistrelli che erano sulle case della strega. Sì, comunque così è una cosa che fa un bordello noi, cioè. Però anche lei in teoria no, lei è rimasta un po' indietro con l'altro perché l'altro non c'era. Ecco. Vabbè, comunque, cosa è successo? Nella casa della strega non c'è un pipistrello. I corvi. Scusa. Quindi potrebbe essere che non abbia visto Laz e Irina. Ok, dobbiamo uccidere i corvi, è importante. In realtà c'è stato detto di non uccidere c'è stato detto di non uccidere i corvi perché lui controlla la gente con i corvi, quindi se noi la ammazziamo nascondiamo da lui. Cioè, magari lo gamma, non ci dai corpi. Certo che ci sgamma, non so dove siamo. Vabbè, ma è una voce che ha messo lui per non uccidere le sue cazzo di spie di merda. Potrebbe tipo, è come dire, non uccidete Arci, che porta sventura. Vabbè, la prossima volta proviamo a uccidere un corvo. Ero giovane all'epoca. Vabbè, comunque, cosa è successo? Corvo è più pesce. Cioè, il problema è che se è un corvo solitario puoi anche ucciderlo, magari, ma se esatto. Sono rida quanto stormo. Decine di mia. Che cosa vi ha fatto? Siete orribili. È molto carino, ma che mi sta impugnando. Ecco, esatto. Cosa avete detto voi al giudice Radin? Perché vi ha ridotto così? Le ho detto di morire, che non gli dirò mai. Lui ha detto non denuncerò mai. Abbiamo detto quello che ho detto io. Avevo detto quello che avreste dovuto dire tutti voi. Però spero che ti venga mai un problema le gengive. È così. È tra 10 anni è così. Anche non meno, direi 2. No, 40 è già quella Coca-Cola. È vero, a 40 sei già morto. 3-4 anni parla da così. Secondo me gli ultimi 5 li fa di agonia come stadio. A Longastrino. Beh, vabbè, almeno ci vediamo solo. Letto di morte, ne faremo i giri a Longastrino. È stato orribile, sono venuti dall'oscurità. Strano che abbiamo visto solo il nostro compagno, Coglionovic. Non so dire, ero terrorizzata, ma... Io faccio un insight per cercare di capire la dinamica. Perché ha attaccato solo lui, Coglionovic? Volevo dire Coglionovic, scusa, volevo dire... Irina. Stracciolovic. 7. Cazzo. Anche io faccio... Sì, cazzo, questa è edizione con 20, BOOM! No, insight era per capire la dinamica, se tornavo, cioè nel senso lei non ha un graffio. Oh, la intuizione è insight. Puoi controllare se il chierico sta crepando. Tipo. Ma io, rega, ho finito tutto. Ma chi se ne fotte, sei il paladino. Oh, no, vabbè, faccio medicina, ma è lui quello che ha le cure. Vabbè, ho capito. No, rega, non ho 45 incantesimi. Lui è sensibile a tutto. Vai, prova a farlo. Ho già usate le cure, rega, non ho 70 incantesimi. Ma hai capito che lui non è una prova di medicina, se qualcuno mi aiuta mi dà un vantaggio. Sì, posso darti io. Vai, tiriamo. Però è meglio se la tirassi tu per io ho più 3 solo di saggezza. E io più 0. Allora fai tu, dai il vantaggio tu a me. Sì. Che cazzo ne so, i 2 punti di saggezza. Mi dai? Bene. Sì. Che culo, grazie. Mi puoi dare tu la proficiency, no? Come si chiama il tuo coso? Non è Star Wars. 14. Hai 14, va bene, basta, lo stabilizzi. No, sì, ma tu mi potevi dare anche i bonus, no? Di dadi. Non è Star Wars. No, Star Wars, coglioni, la cosa del paladino. Può darmi dei D4, dei D8. Forse mi chiama di olio. Ma non è incantesimo, non sono incantesimo. Cioè, ad un mese sì. Dai, tiro un pugno sui denti. Ah, no. Vi spiego com'è andata. Abbiamo combattuto con le streghe. Giulio si è messo fuori dalla finestra a guardarci. Che ho rischiato di morire, ragazzi. Chi è un cuore marcio? Chi è un cuore marcio? Poi loro c'hanno la bassa grossa, siamo usciti scappando. Il tuo cuore marcirà. È arrivato un tizio che fa bene, ora subite altri gli altri danni. Ah no, lui invece gli diamo dei bonus. In realtà la cosa divertente è che io ero andato dalla direzione opposta alla vostra scappando, però. Vabbè, comunque Jonovic. La tua analisi medica. Tutto si è sempre fuori. Sull'Az conferma che ha subito molti morsi e lacerazioni da zanne di grossi mammiferi. Affanculo. Rinoceronti, beh. Rinoceronti. Ma sei sicuro che siano dei mammiferi? Probabilmente sono dei delfini. È molto specifico, Esatto. Probabilmente dei delfini. Tipico morso di un capodoglio. Irina in lacrime mi dice ci avevano circondato, ma... Ma improvvisamente una volta che è caduto a terra sono scappati. Quanti erano? Era una dozzina di lupi. Una dozzina di lupi? Cioè... Perché non ti hanno presa? Non lo so, non... Perché allora non ti hanno catturato? Siamo saziati con l'altro. Perché non hanno ucciso... No, perché non hanno ucciso il moribondo almeno, perché una dozzina di lupi. Sono io moribondo, io sono in scoppio di salute. Qua c'è l'altro, moribondo. Quando il povero Bayern è caduto a terra, mi sono gettata sopra di lui, cercando di proteggere il suo corpo. E... lupi. C'era qualcuno insieme ai lupi? Non si avvicinano a me, non ho visto altri. I lupi non si avvicinano a te? Sì, non so per quale motivo. Particolare. Irina mi viene una cosa. Sembra una capacità un po' strana. Ti faccio un'altra domanda, Irina. È come se gli fosse impedito, gli fosse proibito di toccarmi, non so per quale motivo. Quasi però ciò non ti ha impedito di far uccidere il nostro compagno. Non potevi abbracciarlo e tenere lontano i lupi invece di aspettare. È quello che ho fatto, mi sono adagiato sul suo corpo. Io ho abbracciato il cadavere. Come si suol dire? No, no! Come si suol dire, tempismo perfetto. Ascoltami un attimo. Per Ibera è un po' più complicato finché era in piedi. Gentile badante. Il conte Stradiovar c'ha... Avete visto il conte? Dio, è qui. Sì, nascondetevi. Sì, ci ha salvato la vita in realtà. Comunque. Cosa? Cioè, loro gli hanno salvati per poi peggiorargli. Irina, legga qua, c'è scritto guardia. Legge. Io sono il nuovo ministro del paese. Vede, al servizio del conte. Ma la giacchetta della polizia. Bacioni. Non vede cosa ha scritto in faccia? Traditore, traditore. Allora dico, c'è il manganello. A noi ci ha trovato subito, ma non riesce a trovare te. C'è qualcosa che ci nascondi per caso? Sai come lui riesce a controllare? Tipo perché non si toccano le cose? Fai così schifo al cazzo che anche ai lupi. E non solo a me. Irina. Ma se non mi bombare l'altro giorno. Ma in realtà è carina, Irina. Sta carina. È un, sì, un po' mascolina, ma è carina. Tipo il fatto di girare in armatura. Non me la vedo che la... Sì, all'inizio va. Andiamo dai, Irina. Sì, gag, no. Io sono un nano. Vabbè. Se no, una carogna di sicuro. Se no, allora è quello dei 2 centimetri con la giudaica. Quella creatura. Quel mostro. Ma no, è così solo perché sei come l'ha detto. Sì, andava un figo. E la maledizione se l'è andata a cercare. Cosa? Parla di strada, ovviamente. Ah, ok. Sennò io li laminavo, eh. Cosa? Io li laminavo. È lui che l'ha portata su di sé e su tutti noi. Ma che maledizione? Che maledizione? Beh, intende quella che... Dai, sveglia, dai. Infligge la maledizione di queste terre. E ti hai mai sentito parlare un cacciatore? Un più della costituzione per caso? Esatto, bro. Irina! Non lo sapevo, Giulio, che ti avrebbe tolto la forza di vincere. Cacciatore? Mai sentito? Non lo sapevo, ma stai zitto! Per ogni denuncia verrai punito e tu invece verrai premiato. Io non lo sapevo. No, non ha detto così. Si ha detto così. No, l'ha detto all'inizio. Si mette, verrà premiato con le cose oltre l'immaginabile. No, quello. Se serviamo Strad aveva detto chi accusa e non viene accusato avrà la ricompensa dei giusti. Ma non vuol dire che te la toglievano a lui per darla a me, cioè, capito? Vabbè, no, ma che ricompensa di soldi. Non c'è un problema, non c'è problema. Una domanda, ho sentito parlare di ricompensa, per cosa succede per ottenerla? Mi sa che hai sbagliato voce. Poi se ti danno la protezione dei testimoni non ti lamentare, perché chi è che mi vuole picchiare? Comunque a parte che adesso che ha assorbito roba da me. Noi altri stanno più danneggiati. Comunque Irina, hai mai sentito parlare di un cacciatore? Sono quelle persone non che vanno nei boschi a cercare selvaggi. No, io non ho più l'età per questi scherzi. Del cacciatore, non un cacciatore. Il conte ci ha chiesto di cercare questo cacciatore. Il cacciatore che esiste. Ucciderlo. Irina, che classe è? Irina, tu. Non è una. Grazie. Classe 92. Sì, vabbè. Di che classe? No, un saperlo è che è un nobile. Scientifico, no? No, nel senso, non è un altro, non è un chierico. No, è PNG nobile. PNG nobile. Che domanda è? Che magari ha qualcosa per aiutarvi nella vostra maledizione. Esatto. No, magari potrebbe sapere qualcosa. Cazzo, gli piace rimanere barbuti e sdentati? Allora, la veggente, però dovremmo tornare indietro. A Morganta? No, non Morganta, la veggente è lei. Signora! No. Non sembrato quelli di prima. No, non siamo noi. Sono un bambino. Mio padre, quando era in vita, mi raccontava di un abate nell'abbazia fortificata di un abaco. Abate, sì. Che Attenzione. Era molto bravo sì. nelle arti curative, nella chirurgia. Forse lui ci può aiutare. Andiamo sì. nella clinica privata, dov'è? Pubblica. Quanto è lontano da qua? È di fianco al mulino. Sì, no, dice di fianco al castello di Istrad. No, è dall'altra parte, cioè è nella direzione dove avevate andato. Ah, cioè, strada, no. Quindi il cacciatore una... lei non l'ha mai sentito. Ovviamente tu un cacciatore, dici, cacciatore... nuovo arrivato in queste terre che sta sulle balle al conte. Cacciatore, quanto esatto, pare noi siamo stati convocati per avere a che fare con questo cacciatore. Sì, cioè per stuprare te e portarti dal conte per avere a che fare con questo cacciatore. Per uccidere il cacciatore. Qua per stuprare. Sono espresso male. Per violentare. Allora, la pazzia sta. Va bene, ma portiamo prima il salvo. Siamo a metà strada. Dobbiamo. Cazzo. Giovane cazzo. Vecchio. Dobbiamo passare attraverso il cazzo. Vallachi, costeggiare il lago Zarovich. E da lì in no. un paio di giorni. Però aspetta dobbiamo un attimo, arrivare. Noi. Qua eravamo Grazie. Anche di strada per andare a dove dovevamo portare Irina. Vallachi. Allo stesso posto. Dove c'è la batte. No, la batte dopo. Ah, è dopo. Vabbè, però era l'altro posto vabbè, invece. Noi scarichiamo Irina e poi proseguiamo. Sulla strada. Va bene, va bene. Portiamo Irina e poi proseguiamo. No problem. Ci carichiamo comunque, la smorente. Che in pratica. Lo carica Sheol. Sheol lo carica. Come tutti noi. No, comunque dice avete non visto strada. Non faremo un riposo breve, tipo per guardare un po' di vita, no? Non è il momento per riposare. Sì, sì, andare, era qua, camminare. Era qua. Dobbiamo apparso, andarcene subito, siamo tutti sì, in pericolo. Se ne ci mancherebbe. Tanto se n'è andato. E che cosa vi ha detto? E niente, ci ha fatto il culo. Comunque. Più o meno. Ci ha punito. Cioè, ci ha salvato la vita e ha fatto il culo contemporaneamente. Diciamo che si è accorto. Non a tutti. A uno ha dato un distintivo. C'è scritto tradituro. Il suo più fedele servitore. Lui è la spia. Ma non nel senso che ti tradirà. Forse. Vedete? Pat, massimo... Pat che tradituro. Tradituro è un patronimico. Ma non ti preoccupare, non ti darà mai una coltellata alle spalle. Al massimo. Ma la follia è stata la tua. Dovevi essere più prudente. Io non sapevo che la pena per uccidere due cavalli e bruciare una carrozza. Tuttavia motivi comunque lo fa. Comunque adesso la prossima volta. Più che altro hai fatto ragazzi, bene invece previsto dal gioco. No, cosa hai inventato tu questa sì. cosa? Ok, colpa di catto. Cioè hai previsto dal che gioco. Merda! Che volevo che dal gioco fosse previsto che uno poteva stuprare dei cavalli, bruciare la carrozza. No, la carrozza io c'era. Io ho stuprato la carrozza, io ho stuprato la carrozza con i cavalli. No, la carrozza c'era, poi quello che avete fatto è vostra responsabilità. È un po' confuso. Poi beh, ragazzi, devi pensare che comunque il gioco di ruolo si presuppone che lo facciano persone mentalmente stabili. Quindi oggi che non prevedono che tu possa ammazzare i genitori dei bambini. E sgozzarli, farli a mille pezzettini, appendere i pezzi in giro per la città. Non l'ha fatto! Tra l'altro, per quello non sono stato io. Tra l'altro, per quello non ha ricevuto nessun modito di tela. Infatti, però, io secondo me, per quello sarebbe potuto essere premiato. Se avessi detto, in realtà, nessuno di voi sa quello che è successo in tribunale. Io ho ucciso lui i cavalli. Mi sbatto un cazzo dei cavalli. Cioè, però, ho ucciso anche due persone. Ah, sì, allora adesso lo puniamo. E ha ucciso anche delle persone. No, questo non ci può. I cavalli. Quelli dopo. No, appunto lei. Cos'è che è molto dispiaciuta per voi? Tutta questa parte. Sono della... le vittime dei cavalli. Però l'elfo arriva, davvero? No, no. Ah, chi cazzo è quell'elfo? È il servitore di strada. È il maggiordomo, diciamo. Rovati. Il vecchio servitore di strada. Uno dei servitori. Vabbè, ecco. È un modo come un altro per farvi conoscere. I personaggi un po' attento perché c'è un nuovo. E lei insomma è molto dispiaciuta per quello che vi è successo e dice, quella bestia è venuta fuori dal fondo dell'inferno per tormentare noi poveri mortali. Il cavallo credo il conte e per rispondere alla tua domanda nei tempi molte persone hanno provato a eliminare il conte, a cercare di eliminare il conte. Quindi il cacciatore era appunto per i più svariati motivi, sì, chi voleva sostituirsi a lui, chi voleva provare a liberare questa terra. Alcuni di questi erano dei cacciatori di vampiri. Quasi nessuno è sopravvissuto all'incontro con il conte. Van Helsing. L'unico. Ma, cioè, è solo una storia che mi raccontavano quando ero bambino. E l'unico essere umano che sia riuscito a tenergli testa e per questo diventare nemico giurato del conte risponde al nome di Rictavio. Rictavio? Sì, non ha un cognome. Ma un nome normale non ce l'ha nessuno, no. Ops. Ah, vedi, l'ho spezzato. Scusate, Rudolf van Richten. Rudolf. Un tedesco. Esatto, ma von Richten. Non si è più avuto sua notizia da anni ormai. E alcuni dubitano che sia mai esistito. Potrebbe essere la nostra unica speranza. E comunque vi esorto a andare via da questi posti. Sì, hai rotto il cazzo, non lo sappiamo anche noi dobbiamo andare via. Più lontano possibile. Va bene, allora c'hai l'idea, se ti piace. Va bene. Cosa? Ho rotto. Andiamo. Andate. Troviamo un posto sicuro dove riposare. E proseguiamo verso l'abbazia. Sì, andiamo verso l'abbazia. Allora, appunto, come vi dicevo prima, la strada prosegue costeggiando il lago e vi porta in direzione della città di Vallachi, che è sulla strada tra voi e l'abbazia fortificata di Krez. Una pizza civez. La mappa. No, non ce l'avrò. Ce l'ho qua. Cioè, ce l'avrei in realtà. Vabbè, allora sei pigro? Sì. Voi siete. Il mulino è in O. Il lago è quello grande in alto. Che è difficile questa. Disegnarlo orizzontale. No. Noi siamo da O. Dobbiamo andare a? A Vallachi, che è N, mi sembra. N? Sì. Okay. C'è scritto Vallachi. Va bene, puoi proseguire a Krezk, che è nell'angolo. Abbiamo già passato le porte, quelle lì, giusto? Mm-hmm. Che è quelle che sono aperte quando si arriva? Ma quindi in realtà sarà un casino poi per rientrare. Prova a suonare il campanello. Vai, possiamo fare il tuo riposo? Allora, non mi ricordo quante miglia fatta al giorno, però a un certo punto ti supplico, piatta, facci riposare. Non spaccare, che spaccare. Dovete accampare per forza. Sì. Ci accampiamo per forza. Ma è bravo, dritto, devo mettere la foto. Sì, la porta foto. Andiamo a fare i turni di guardia. Come volete. Irina ve li consiglia caldamente. Irina farà i turni. Irina fa i turni di guardia. Può far lei. Vai, facciamo. Più che volentieri. Altro è immune da qualsiasi cosa, quindi. Che puto, immagino il Lubitsch mentre. Noi dormiamo vicini. Se ci attaccano, abbracciaci tutti. Vai, inizia Coso, che è il più tranquillo. Chi? Direzione. Patk. Patk, sì. È quello più carico. Gola profonda. Gola profonda. Poi fai Fatalus, che ma queste cose tu mi riguardi. Messo bene. Ho 12 punti ferita, tu ne hai 9. Quanti ne ha? 6, 7. Quindi direi che facciamo prima. Questo riposo lungo breve. Prima giù, prima Giuda, prima Giuda. Si riposa tutto. Allora, Giuda. Giuda, poi no, Irina, cioè mi fa tutti Irina e poi gli altri li fa Sceo. È vero che ci sono anche Sceo e Laz, non lo fa Laz. Laz sta morendo. Beh, fa il turno di guerra comunque. Sì, ma è morto. Con Sceo lo fa con Sceo. A parte che Laz potrebbe castarsi tutti i cura ferite che non ha usato su se stesso. Sì. E refullarsi. Non ci fidiamo di Irina a questo punto. È un licanto. Cosa, in che senso? Esamini Irina. Ora che mi hai detto. Sì, vorrei esaminarla ieri. Come la posso esaminare? Però ho una faccia di merda. Potrei fare disguise selfie e andare a letto. Riprendere la mia faccia tradizionale e esaminare Irina per un'oretta. Se fossi un uomo andresti con un insight, poi mentre lo stai facendo torni normale. Sicuramente qua c'erano tracce di più lupi. Beh, comunque è invecchiata di qua la faccia di 10 anni, non è che è marcio. Cioè, boh, no, per salire il fatto che il non attacchi un fettore insieme a Vezzo. Ok, quindi che cosa fai? Quindi non lo so, la guardo con più, cioè non ho molte basi su cui partire. Comunque, una cosa, mentre lui esamina, devi ricordarti che lui male un fettore. Cioè, mentre stiamo viaggiando. Scusa Irina, togliti l'armatura. Quindi c'è... La guardo con particolare attenzione per vedere se c'è qualche atteggiamento che ha particolare, magari scruta nella foresta, se c'è qualche... Non si esamina così una persona. È sempre terrorizzata e quindi si guarda Ward continuamente intorno. Ho capito, ma non ho molte possibilità alternative. Facciamole togliere l'armatura. In che modo... No, dille qualcosa per cui una scusa... Ah no, beh, quello che tipo... Vorrei vederti nuda, stavo desiderando. Vuoi fare il bagno in quel lago là? Non so. Questo tuo rapporto con i lupi. Scusa, sono un vecchio per me. Mi sono perso qualcosa. Devo dire, mi stavano per sdrammare. Ma il sdrammato. Non so. Ho avuto pietà per il povero Paer. Del fiore della sua gioventù. Non so cosa sia successo, è tutto così strano, sono così confuso. E non è la prima volta però che succede, vero Irina? Cosa vuoi dire? È bellissimo! Io paura! Cosa vuoi dire? Non capisco. Salvare, ti prego, basta! Non è... E vuoi dirmi che è la prima volta che... Merda, sono il mostro di Longastrino. Un film di Longastrino nel video vicino. È la prima volta. Scommetto che non è la prima volta che ti trovi in una situazione del genere nei posti. Cioè, tipo il vecchio perverso. Cosa intendi? La mia casa è stata attaccata ogni notte per dei mesi finché mio padre non è morto di cuore. Ma anche nell'oscurità di camera tua ti tocchi? Cioè, la prossima domanda è questa, tipo. È stato attaccato dai lupi più volte. Avevo le zampe e volevo dire le mani. No, però cagami. Dimmi. È stato attaccato dai lupi? Forse. Merdo, lipsterino su social. Lei è stata attaccata dai lupi in passato. Cioè, la casa sua è stata assalita da... Ma non l'hanno attaccato te. Creatura indeterminata. Sei sempre stata risparmiata, te lo sei chiesto perché? Perché mio padre mi difendeva. Però. Non si vede mai forte. Beh, sei tu che hai difeso Bayern. Come è possibile una cosa del genere? Sono un po' vecchi. C'è qualcosa che ci stai nascondendo, Irina. Sì. In questo viaggio rischiamo la vita. Ma mettimi su anche le spinte. È così breve. Sta finendo. Io non so che cosa vuoi dire. Sono così confusa. Così confusa. E che cosa che ti confonde? Tra due giorni controlla che tempo è continuato a seguire, se la toglie. Due occhi. La tolgo subito. No, Fuori dalla finestra di notte che mi guardano. Sussurrano. Occhi carini, forse. Oh, occhi profondi. Occhi profondi. Nei quali perdersi. E ci sei forse perduta in questi occhi tempo fa? Non lo so. Ho guardato troppo a fondo. A un certo punto noi facciamo i cazzi nostri e sentiamo Irina che piange. Stai facendo paladino schifoso. Ora capisco perché tutti devono inquisizione. Sì, Preti di merda, non è una bambina. Aspetta, sto scavando la roba. Non mi sento tanto bene. Ho mal di testa. È un momento mezzo. Che tipo di visione? Di un vecchio di merda che mi sta agitando. Gli occhi che mi sussurravano. Cosa ti sussurravano? Gli occhi sono sussurrano. Irina, che cazzo di dici? Fammi entrare. Fammi entrare. Dove? Era al postino. Dalla finestra. E l'hai fatto entrare, Irina? Non lo so. Che vuol dire non lo sai? Non mi ricordo. Ero confuso. Eri lei fatto entrare in occhi, forse? E fatto entrare in tre e sentiti scivolare. Che cosa inquietante. Beh, mi preoccupi. Perché il mio personaggio ammazzerà anche la gente a caso, però. Nessuna donna è stata maltrattata per Gianni. No, no, hai fatto entrare gli occhi. Io. Che porno guardi, eh? Dove li hai fatti entrare? Un nuovo film, gli occhi che sussurravano i cavalli. Dove ti hanno guardato gli occhi? Dove li hai fatti entrare? Non aprite quegli occhi. Tipo con la bambolotta. Indica dove ti hanno guardato, sì, gli esatto, occhi. Esatto, indica. Entrare dalla finestra, forse era dentro di te. Qualcosa era cambiato. Qualcosa si era rotto. Avevi perduto qualcosa. Io non lo so, io... Tira un dado, Irina. No, no. Facciamo. Si ripiglia. No, come si ripiglia? Ma culo. Arriva adesso. Ha fatto 19, mezzo. E cosa vuol dire si ripiglia? Quindi rialtala in faccia. Erano incubi. Venivo perseguitata di notte da terribili visioni. Non so se ce l'ho. Ma visione di cosa? Occhi che mi fissavano. Ma che occhi erano, Irina? Fissavano su solo. Ogni dettaglio può essere importante a questo punto. Bui come la notte. Saranno bui come la notte, porca troia, non li avessi visti! Cazzo! Fatti la sentire sussurrare, ragazzi. Eh? Fatti la sentire sussurrare, gli occhi. Sussurrare, porca. Forse la voce di un lupo nell'oscurità, ululato. Ti facevi dai dolcetti delle streghe, eh? La luna, forse, per te è qualcosa di importante. Non capisco quello che dice. Vabbè, nel frattempo noi dormiamo. Com'è la luna in sti giorni? Adesso è a tre quarti. Sei anche un lupo mannaro. Può diventare. No, dico, se lei era un lupo mannaro, leghiamo durante la malattia. E vediamo come reagisce. Appena ribecco il mio incantesimo, posso fare il robo del male, quelle puttanate. Adesso finché. Adesso... Io dico di bruciarla su una pira. Perdona, mi va di stare. Se è una strega stanca. Non brucerà, se è una vero. Persona brucerà, ci sta. No, al contrario. E nel caso lo uccideremo. Di lasciarmi riposare. Se innocente non brucia. Vabbè, in sperando tutti i modi di trovare muore. A riposo no. In questa notte. Forse no, se è innocente, brucia. Se è strega non brucia, l'ammazziamo. Ammazza. Come se tu la mettevi nel lago, se affogava era innocente, esatto. Se non moriva era una strega, la uccideva. Eh no, è così l'Inquisizione. Aveva una sua logica. Raga, è così che funziona. È innocente, l'abbiamo uccisa. Però. No, proprio molte volte l'ammazzavano, non era convinto che fossero colpevoli anche se morivano. Mica dicevano allora era innocente, scusa. Perché trovavano qualche altro. Era innocente, ma ormai era morto. Allora, Irina va alla nonna. Il metodo interrogatorio diverso. Chi fa il turno di guardia? Irina, abbiamo detto. Inizia. È andata a nanna perché. Io non la faccio io. Lo faccio inizia l'1, 2, 3, 4. Vai, tira un di 20. Io? Mm-hmm. Ho vantaggio? No. 17. Dai. Ok. Su che cosa devi tirare? Devi tirare un di 12 più un di 8. Basta dire un di 20. Un di 12. No. Sì. No. Più un di 8 che era qua. Più video curato. Non è più qua. Un di 8. Prendi, sei pieno. È pieno. questo è questo. Basta. Che vuoi il tuo? Bombe! 2, 3. C'è 5. Sì. Okay. Detto anche 5. Se avessero i due risultati diversi. Oh. Ma quelli siamo fottuti. Niente, 5 grandi lupi. Con noi che dobbiamo ancora riprenderci. Ok, tira un dado percentuale. Non sono così per far divertire un po'. Quello giallo è le decine. 69. Non a caso 69 è stato fatto. Mentre fai la guardia calpesti qualcosa. Sono fermo a fare la guardia. Tu chiedi calpesti qualcosa. Questo è interrogatorio diverso. Cos'è? Cos'è? È Guardia Ratman? Sì. Fa... Intanto leviamo queste stupide mutande strade che te ne avessi provato. Mi domando perché penso che facciamo pra. Cosa? Dove sono? Aver avuto un mancamento. Strano, sono le mie. Si chiudono gli occhi e riesco già di nuovo. È uguale, lui alita e lei fa cosa, scusa? Ah, chi sono io? Cosa hai detto? È tutto una cosa che piega, cos'è? C'è un telo per terra. Pezzo di tessuto. Che non era per di prima? Ti sei accorto adesso della sua presenza. È sotto del fogliame e degli arbusti. Ah, ok. Non hai proprio un cazzo a fare tu durante la notte. Controllo un po' intorno per vedere che non sia una trappola tipo intanto. Non ti sembra una trappola. Mi ci salto dentro. Ci metto la faccia nel telo. No. È una bandiera. Una bandiera. Sì. Di una nave. Di quelle che me. Non pirata, però una bandiera navale. Che raffigura una nave. Figa. Me la e questo è quello che possono generare gli incontri casuali. Bene, ha trovato la bandiera di una nave in un bosco. Esatto. E una volta qua era tutta mare. Una volta qua. Fantastico. Ma chi tocca per qua? Giulio! No, mentre. No, aspetta, fammi finire il mio turno. Prendo la bandiera. Il mio turno. E metto la. La metto la bandiera a modo di copertina. Poi sono io quello inquietante. Sì, perché la mattina la possiamo accusare di qualsiasi cosa così. Non stare con lei via. Va bene, lei dorme, però si sente più. Beh, io però la faccio diversi giri sulla faccia comunque. Venga a respirare. Cosa che fai sulla faccia? E stringo. Mi disegno un pene. Vabbè, quindi. No, copro Lazzo, che sta male. Ah, ok. Dopo di te chi sta a fare la guardia? Ma un normale c'è qua? No. D'altro non saremmo avventurieri. Vai, tira un di 20. 13 dicendo 120 con la barba. Ma che cazzo vuoi? E l'alito fetido. Ma che cazzo. Il tuo turno di guardia procede tranquillo. Anzi, io di notte se riesco metto Ovezzo e Giulio. No, Ovezzo e Salla vicino a Giulio. In modo che gli respiri in faccia. Se mi tocchi mi sveglio. Sì, no, è che ti spostare una persona di spostarmi, cazzo. I vecchi dormono un po'. Vai. Sta bene? Vai. Basta far finta che non sia un cappello. Fumble! Oh, grande, geniale questo. E arrivano i lupi a buttarci al culo. Il tuo turno di guardia prosegue. Grande Abu, i fecio sortilegi. Alla fine. Grande Abu. Fino alla fine. Della vostra. Solo che hai dormito. Quando mi sveglio lui sta dormendo. Beh, lì che. Come quando Bravo. Faccio io, quando giochiamo a. Quando guardi. Vivo. Tipo ora. Tipo quando ho io. Quando non sono costretto a masterare. Scusa, se ha fatto uno non è successo niente. Se hai fatto 17 non è successo niente. Quindi non può succedere niente. No, 17 ha tirato. 19. Tira un di 12 più un di 8. Perché? Perché sì, dovevi dirmelo prima se devo far basso o alto, sennò io tiro i dadi in modo diverso. Scusa. 4. No, 1. E il di 8? Un di 12 più un di 8? Di 8 non c'è. 4. Per un totale di 2. 3 totale. 3 totale? Sì. 1 più 2 hai fatto? Sì, 1 più 2. Ah. Devo tirare basso, però. Ah, quindi trovi la prua della, trovi la prua della nave. Ragazzi, mi dite devo tirare basso o alto, io tiro, sennò. Un drago. Un drago? Che cazzo fai? Oh? C'è il nostro gruppo di Facebook è degenerato. Trovi il nostro gruppo di Facebook qua. Noti una presenza sotto una. Taiko. La radice sporgente di un albero, di una trappola per lupi. Con di le ganasce di acciaio che sono ricoperte di ruggine. Ed ma è carica. È carica ed è. Il cacciatore! Nascosta tra il fogliame. Beh, io da bravo da bravo parole tue rompicoglioni provo a disinnescarla. Farsi mai con Mage Hand sucate strozzo. E devo fare un tiro sulla destrezza, no? Mm-hmm. Vabbè, la fa scattare. E... la mano. 7. 7. 7, ok. Sì, direi che scatta. Scatta la trappola. Bene, scatta. Sentite okay. Alle armi! Dopodiché la esamino. Per vedere da quando, cioè, se ci sono dei segni, una sigla, un tipo, questa appartiene al cacciatore. Tradituro. questa trappola è stata nascosta in maniera molto accurata. Non fatemi mai disinnescare. Sotto un strato sottile di aghi di pino e di detriti. E sotto capisci che sono i cacciatori baroviani. Che li piantano in giro sperando di ridurre la popolazione di lupi. Ma non con grande successo. Esatto, i lupi sono troppo intelligenti per essere presi in questo modo. Del resto, non siamo stati presi neanche noi. Beh, io direi che la prendo e segna. Poi mentre sto facendo la guardia, le do un po' una pulita e me la. Una hunting trap. Ok. E il. Aperte virgolette sole, chiuse virgolette, sorge e vi sentite un pochino meglio perché siete riusciti a riposare una notte. Full riposo, full in questo. In maniera ininterrotta, inaspettatamente. Che culo che avete avuto poco tra voi. Vabbè, ma era molto semplice, se avevamo uno scontro lo rifavo male. Ma uno quindi non era niente di... Da 15 a 20. 15 o 20? Da 15 a 20. Ah, quindi in realtà se a noi si però doveva tirare più 17, alto però. Su quel di 12 più 8 fatto 1 e 2. Va bene, allora direi che continuiamo a camminare. Vai, facci fare uno scontrino. Continuate a camminare, allora. Scusa. Sì, no, anche io per mezzanotte dei ho diverso. Dove vai? Dove vai? Sicuro. Deve andare a riferire al conte. Le malefatte. C'ha il meeting d'aggiornamento. No, ma se avessi ammazzato. Ah, zitto, passo di qua. Non avrei detto niente. Cosa vuol dire? Tipo, vabbè, perché dai. Il cavallo ucciso in maniera gratuita, bruciata qui. Cioè, sì, il fatto spione, scempio gratuito. Spione di merda. Hai fatto bene. Spione, sì, ma non si fa la spia. Dobbiamo essere tutti più potenti. Alle spalle, spese Giulio, che un po' se lo meritava. In realtà adesso Giulio avete in questa condizione. Ha fatto pensare che. Vabbè, ma non si fa comunque. Master. Non si fa comunque la spia. No, non è che. Cioè non è che Kat ha pensato questa. Secondo me l'ha pensata così. Random. Ha pensata perché hai fatto quella puttana. Ma figurati. L'ha detto prima. No, l'ha fatto. Vabbè, camminiamo. Quella è una scusa, l'avrei fatto comunque. Camminiamo. Vedi. Avrei che trovato un'altra cosa. Scusa avresti usato. Tipo, perché avete attaccato le mie amiche streghe? Di chi è stata l'idea? Mia. No, in realtà mi sono dovuto scervellare per trovare alternative. Poi per fortuna avevo una scusante così semplice, quindi mi ha reso le cose più facili. Perché questa cosa era pazzo, prevista da... No, psicopatico, attacca più a casa. Continuiamo a camminare, Katta. Bene. Allora, fatemi un bel perception. Guarda, Katta, con questo 20 mi ho dato accetta, male. 20. 16, un tiro sopra il 5, pazzesco. 19. Io 20. 12. 16. 16. 16. 19. 20. 20. Tondi. Come 20? Tutta la notte. Perché tu non ci ero, scusa. Perché ho la proficiency. Power player. Min max. Saggezza. Dove sta? Min max. Ok. Sono il manuale dei mostri. Il manuale dei mostri non ce l'abbiamo. C'abbiamo il manuale del giocatore, il manuale del master. quello dei monster. E basta. Cos'è che vuoi sapere? Non c'è, c'è solo questo. Molto grosso quel manuale. Monster manual. Vedo da ancora cosa di San Pennarellino. Ma lo sa, il mio dottore l'ho insegnato, è giusto che fai col pennarellino. C'è un pennarellino, io non credo. Questo è la penna di un cinese, vero? Sì. Era quello. Ce l'ho anch'io. Noi che organizziamo degli yoma a pranzo il sabato. Yoma. Non volete andare a mangiare la carne? Ah no, no, pranzo no. O uno o l'altro. Ah, battute, ma oh, quando siete invecchiati che non capite più le battute. O l'uno o l'altro, ma cosa? No, quello non ti va bene. Beh, inizia nel senso andavano lì, ho finito pranzo e poi la sera. C'è un pennarello che vuoi tu per la cosa? Sì, cazzo. Non è che vuoi morire a 40 anni, però non è che non voglio farlo. Esci, Lovez. Però uno yoma lo facciamo. Uno yoma, ma andiamo a Toscanaccio sabato. Dai, sì, io dico tra un po', anche infrasettimanale. Ma sei tu che hai dei limiti fisici? No, rega. Cioè, sì. No, rega. Hai limiti della dieta, però se ve lo sto proponendo vuol dire che a quanto pare posso farlo. Io posso mangiare sempre. Basta non spendere. Non so. Se mi sta a fare lo yoma. Che non è nella carica. La vita di salve. Eh? Posso brucare? No, se brati. Mi va no, vero. È un po' grande però. Va bene? Se no puoi provare con quello della... Ce la facciamo andare bene. Aspetta. Ce la facciamo andare bene. Perché date? Posso provare con questo se no? Scrivi la data o devi annerire la faccia di Vez? Non riesco a faccia di Vez. Okay. No, ma... Sei piccolino. Però non sei. La data? E poi? Posso dire? Ferrari vuoi scrivere? Typhus. Me lo stavo scrivendo un cazzo. E poi scrivi il traditore. Ma che handicappato. Che cazzo stai facendo? No, con questo dimmi prima che sia tardi. Devi usarlo in punta, Salla. E l'ho usato in punta, è enorme. Ma le capacità artistiche di una lucerta. Ho capito, è gigantesco. 0, 1, 19. Un po' grosso. Sì, va bene. Gianelli. Tycoons. Vabbè, quindi che cazzo? Vabbè. Cosa? Non ho capito che è successo in tutto ciò. Perché mentre c'è questo manuale dei mostri? Perché adesso si fa trovare un mostro e io e te l'abbiamo visto e gli altri no. No, anche chi ha fatto 12. Ma tu questo durante la giornata però. Ok, quindi camminiamo. Non mi ricordo più come si usa il... Lui vuol dire il paladino. Io non posso più usare il guerriero. Con almeno due in forza. Ma adesso ti curi. Casino. Quel caverna. Adesso mi curo cosa? Ma ci sarà un ristorare inferiore, quelle caccate per riprendere le statistiche, no? Ma l'hai fatta te la prova? Io no, ma che cazzo dici, Vez? Basta, hai fatto prova di medicina. E ti ha fatto capire che non è che le ritroviamo così, dobbiamo andare da sto pazzo a capire, c'è la spiegazione. Hai capito? Mentre camminavo. Beh, sulla strada. A parte che, scusami, voi i preti, scusami, no, è vero che voi i preti rimaste solo i figli. Scusami. Solo se li superano in quattro di numero. Conte Strad hanno ucciso una progenie vampirica davanti ai miei occhi, su degni di punizione. Uccidere che non sono un po' gentile, l'avete stuprata in un angolo. Vabbè, c'eri anche tu. Conte Strad mi hai sparato, però non sono arrivato in tempo. Sì. Qui ci sono crimini impuniti. Che pezzo di merda. Però io ero amico nel Conte Strade. È vero, non aveva capito un cazzo. Conte Strade, la prego, venga qui. Mago Merlino di merda. Finalmente, dopo qualche ora di cammino, arrivate all'altezza del lago. Davanti a voi si... Era giù. Quando la nebbia si dirada un po' si vede anche un bel panorama, perché c'è questo specchio d'acqua con dietro delle montagne. Ora vedremo Irina se è una strega. Spogliati. Con la catena. Spogliati. Vabbè. Irina vi dice di fare attenzione. Le montagne, negare. Le montagne cosa? Sono abitate da... Briganti di paglia? Devono pagare. Creature strane. Io butto un sasso nell'acqua. Non sei così vicino. Ah, okay. Lo vedete un po' lontano. Gli uomini dei sassi normali. A tal proposito, notate. Per la Sicilia delle montagne, manca abbastanza palesemente. No. Una figura umana. Dove è questo, scusami? Mentre state camminando al lato della strada, insomma, fai conto una dozzina di metri verso il monte. Figura umana ai lati della strada, un manuale dei mostri aperti. Mi fa capire che non è una persona buona, eh? Contestrato! Terence Dan! Mi voglio far del male, contestrato! Di che? A quanto pare sei dalla riva sbagliata del fiume, Danny! È una figura molto ferina, completamente questo molto umanoide. Questo umanoide è completamente ricoperto di fango grigio per mimetizzarsi meglio tra le rocce circostanti. Sergiola. Ma non è bastato. Notate che indosso, insomma, alla cintola una grossa ascia di pietra cruda. E non riuscite a capire se è un uomo o una donna. Tu, uomo di sesso indistinto con la blascia cruda. Tu, persona. Scusa, ma com'è in inglese? Ah no, com'è in inglese, scusa. Che cosa? Sarà grezza. Sì. Sarà grezza. Crude stone axe. Crude scritto. Sarà grezza. Sì. No, ma sarà cruda, vuol dire che non è cotta. Hai mai cotto un po' di pietra tu? No. Ma le mangi, cruda. È così che si fa la terra cotta. Buonasera. Che ora sono? È giorno? Sì, è giorno. Buongiorno. Buongiorno. Gigante dai piedi d'argilla. Rudimentale. Non è un gigante. Gigante. No, beh, è un modo di dire, anche la Russia non è un gigante. No. Coglione. Non era la Russia che era un gigante dai piedi d'argilla. No, era l'impero ottomano. Beh, uguale. Grenzi. Ricordavo questo. Sentendosi scoperta, si alza in piedi, lascia la sua postazione, il suo nascondiglio e lancia un verso di un uccello. E poi fa per voltarsi. Che uccello è? Io lo conosco. Cosa sta succedendo? È una poiana. Ah, chi urla? La poiana cruda. E poi fa per voltarsi e correre via. Gli sparo. Che cosa? Cosa vuol dire gli sparo? Qua mi sono strano. Strano. Vieni qua, bello. Vabbè, facile. Ok, posso raggiungerlo. Puoi seguirlo, certo. Ma non è che arrivi, oh, l'incantatore. Gli sparo l'incantatore. Sparo con la balestra. Non puoi venire nel mio quartiere, fra, e fare così, eh? Se tu, tu spari con la balestra, spari. No, questa cosa questa volta qua la provo, Giulio. Cosa fai con la balestra, scusa? Contestra. Ha un'ascia cruda, Lez. Ha una è un crudista. Ha un'ascia cruda. Dai, è chiaro che ci tengono in imboscata, poi tanto lo sappiamo. Se no, scusami, quale avversario potrebbe fare il verso della poiana davanti a noi, sapendo che la poiana... Ti sparo con la balestra. Allora, beh, ditemi le vostre iniziative. Ah, vedi che cattiva. Oh, 22. Io 20. Solo 15. 15. No, 13. Tutti molto alti. No, io 20. Giulio pure 22. Ma sull'iniziativa si somma la destrezza o la proficiency? La destrezza. Meno che proficiency. Contestrado, vorrei anche la proficiency. Contestrado, cosa devo fare? Sei anche il bardo, Jack of all trades. Insomma, anche all'iniziativa. Ok. Contestrado, vorrei essere anche un bardo. Io purtroppo sono un bardo. Sono scemo. Perché non avete entrato addosso alla tizia ammazzandola? Che tizia? Questa. con la lascia cruda. Ma è una donna, no, un uomo. No, è un essere non ben... È un essere crudo, ma non è una persona. È una persona cruda con una cruda appesa. Secondo me è un mostro, però. Conte Strad, avevo chiesto la cottura media. Atlas, prima che lei scappi via, hai il mobile attaccato. Ci arrivo in corpo a corpo, Ti, tu ti muovi di? 30. 30 ma è questa cosa dei piedi che fa voglio sistema metrico decimale, voglio i metri. Puoi arrivare da lei con tutto il tuo movimento, ma c'è tanto che Giulio spara, io sto facendo il piede, la manda di strada, allora gli sparo. Ok, oh le sembra che qualcuno mi per la tradizione. 12. Lo manchi. Lola, chi lo sa. It. Hai capito. Chi è? Dai, pack. Si guarda le foto della rotta. Uguale, no? Ancora. Oh, mi esce fuori così? Sì, ti cosa esce fuori. Ma no, esce fuori. Fuori e poi vedi anche la rotta. Mi lancio... Metti in ordine. A me non piace tanto, è brutto. Fa un po' schifo. No, è carina, però è che è molto, molto rifatta. Io. Beh, sì. Ma troppo. Chi è prima di tra voi due? Boom! Allora, io 19 con un trucchetto. Sono già in ordine, Catabriga. 19 con un trucchetto. La tu fai qualcosa di utile ogni tanto o fai solo sta merda qua? Sì, hai fatto 2 danni. Sì, uno. Ma quindi non ci si arriva? Un po' meno. Scusami. Ha fatto un danno. Beh, raga, ha fatto trasformarmi quando si... Sì, gli ha fatto un danno. Chiamano altri... Ha tirato un sassolino. Okay. Infuocato, però. Cotto. Ma quindi se faccio quindi tutto il mio la sua ascia, quindi tutto il mio movimento non ci arrivo, ci arrivo, non ci arrivo. Ma no, tutto arrivi. Il tuo movimento ci arrivi. Da lei. Poi non posso attaccarlo. No, non puoi attaccarlo. Vabbè, farò così. Ok, quindi gli sei davanti. Sì. Cosa c'è intorno a me di vegetazione? C'è gente di cose. Che... Aspetta, queste cose, ci sono degli alberi, ci sono dei sassi. Mi nascondo. È un fango. Ma che prima scappa. Sta lei. Lui, quello che è. It. E... Ormai che... hai detto lei. Ormai hai detto sì. Lei. Questa. Una cosa? Beh, se fai questi suoni qua. Vedendosi arrivare questo mostro decrepito in corpo a corpo, prende la sua ascia. Comincia. Tieni, vecchio di merda! Aspetta, parla. Allora, lei è... Diretta alle 8. Ah, no, scusa. Si tratta di un berserk, quindi non sono noti per le buone maniere. Te? All'inizio del suo turno, quindi... Perché invece di parlargli l'abbiamo aggredita, scusate? Io sono andato davanti a lei, in realtà. E lui ha sparato. Ma non l'ho beccato. Io non l'ho beccato. Tu non l'hai sparavo, beccato. Magari sparavo a qualcuno di vicino. Gli sparavo con volevo salvarti la vita. Gli sparavo con qualcuno di vicino. Come i cavalli. Volevo bruciare quello che c'era attorno. Perché la mia esperienza chiaramente... fai un agguato. Chiaramente. Non volevo soprarli con la carrozza. La mia esperienza di guerriero e giocatore è chiaramente uno scontro. Non ci serve il loro modo di combattere è molto avventato, per cui il loro? Certo, ce ne saranno altri perché lui ha fatto il richiamo della civetta, quello che è, per cui mettono molta forza nei loro attacchi, ma si sbilanciano di più del normale, per cui hanno vantaggio gli attacchi che fanno, ma danno vantaggio a chi gli attacchi. Se gli arriva la possibilità, vai, quindi? E quindi è come un barbaro con reckless attack fa 12. No, 12 no, quindi cioè, hanno vantaggio all'attaccare, ma hanno anche il vantaggio all'essere attaccato, tipo in nascondere. Ah, io non avevo vantaggio. No, vabbè, no, si è attaccato. Io gli sono arrivato attaccato, questo vuol dire che devo attacco vantaggio. Anch'io, questo vuol dire che gli puoi fare il furtivo. Fare il furtivo, l'attacco. Vai. Hai vantaggio? No. Hai appena detto che è il reckless, no, sì, è il barbaro. Gli attacchi in corpo a corpo hanno vantaggio. No, io attacco in corpo a corpo. Ma non ci arrivi. Mi muovo, dash, dash. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Puoi fare. Il mio vantaggio? Sì. Doppio 20? 20, critico. Bravo. Sto PG fa solo critici. Allora, sono 1 di 8. Devi anche darlo, farlo un taunt. 3 di 6. Che... chi è che gioca ora, bambino? Ah, non è un disease il mio, perché io non posso avere disease. Tu non puoi avere disease. Ma se è una maledizione, te la pigli in culo. Esatto. Non posso avere disease. Disease inteso avere... che non puoi avere la freddore. Straccione. Allora, 4. 6. Hai ragione, il tuo alito non puzza così tanto. 10. 20. Peccato perché stava 22, funzionando con i rito. Cosa la confondere? 25 danni. Cosa? Mi ricordava il nonno. Potazzo sto maior! Quindi la infilzi con il tuo stocco. Sì. E poi estraggo l'arma. Aria Stark. E lancia un grido di dolore, un verso di soddisfatto. Dai, risuona per la foresta. No, non hai capito. Dal fogliame dietro di lei. La infilzi e poi estraggo lo stacco. Sì, l'abbiamo sentito. Con quello erano 25 danni. Ora vediamo con lo stocco. Da dietro di lei vedete apparire, spuntare, no, dal fogliame. Ora c'è l'attacco con l'altra spada. L'avevo già usato l'attuazione bonus. Oh. rimettilo in fuori. Strad. Scusate se ha fatto un danno io 25. Il ladro non usa neanche il preservativo. Dal fogliame retrostante spuntano fuori altre due umanoidi ricoperti di fango. E le loro probabilmente asce crude, probabilmente amichette sue, che vengono in soccorso della loro povera compagna. No, non c'è più nulla da vedere. Quali danni? E che linguaggio parlano? Ma. Di solito comune. Ma non lo conosco. E quindi vi insultano nel loro dialetto, nella loro lingua, mentre vi dispensano asciate a destra e a manca. Se volete, frasi del tipo: morite, servi del cane conte. 90 la paura. Come, scusa? Servi del conte. Abbiamo attaccato, scusate. Perché sono dalla nostra parte allora? Dalla vostra, scusa. Smettete di turpare le nostre terre. Ah, io alzo le mani. No, dopo che mi hanno attaccato alzo le mani. Che buon samaritano. Allora, il primo ceffone è arrivato. Che falso sei io? Beh, hanno detto servi del conte. Le ha appena ammazzate. Io l'ho fatto. Ma chi ha ammazzato? Ha colpito. Beh, adesso loro colpiranno me. 19 ti colpisce. Direi di sì. Adesso loro colpiranno me e io dirò: no, aspettate, amici del conte, siamo tutti amici del conte. No, non è detto amici del conte o nemici del conte? No, nemici del conte. Il primo ti fa 10 danni taglienti. Amici, non so se posso dirgli. Ah no, loro quindi sono col conte sti qua. No, contro il conte. Ah, contro, allora, aspetti, fermati. Adesso intanto prendo un po' di mazzata. Chi è che ha diplomazia buona? Io. Uno che non abbia sgozzato. La seconda mazzata arriva a Vardistran. Sir Barristan, semi. Che è intoccabile oggi. 11. Non si picchiano i vecchi. Perfetto. Atlas. Avanzo di fuoco! Di 30 piedi e sparo. No, ma fermi, non spariamoci. Chiosa parlare contro il conte. E bello, spariamoci. 14. Tu lo colpiresti, ma loro stanno dietro ai tuoi amici, quindi hanno copertura leggera. Colpisco come una vita. Infatti stavo... quindi, per il resto della cuffia, per evitare di colpire il tuo amico, qualunque esso sia. Esatto. Dipende, tradituro. Io voglio colpire. No, lui è dietro, un maiale. Esatto, è il peggiore. Probabile che sia. Tanto sei un patto costituzionale apposta per stare dietro. Esatto. Tipico stile. Vai, Pat. Io dico. Ma li aggredito di noi, vero questo? E in realtà sì. Sì. Oddio, loro ci stanno tenendo. Cioè, io ho perso 10 di vita, però. No, lo dico. Fermiamo questa inutile carneficina. Meglio se la continuiamo. Diventa un orso. Ciao. No, dico, prendiamo questa inutile carneficina. E dico, non siamo. Cos'è che ci ha chiamato lui? Servi. Non siamo servi del conte. Loro sono. Al massimo spiglio. Dico, Non siamo salvi del conte. E alzo le mani, appoggiando la mia ascia cotta. Non siamo salvi del conte. Molto di più. Io ho il distintivo. Distintivo. Sì, esatto. Tu hai tipo il distintivo con la faccina del conte. E quindi Vardistra. Sì. Esiste l'equivalente di una posizione difensiva in questa versione? Dodge. Sì, sei dodge, è vero. E faccio quello. E anch'io dico: siamo dalla stessa parte, non siamo servi del conte. E faccio un persuasion. No, penso che mi non è andato molto bene. 11. Aggiungici i bonus però. Si è già aggiunti i bonus. Ma non l'ha visto il dado, catta. Faccio io il bonus. Uno sembra convinto, dai. Tutto sommato, effettivamente non aveva mai visto il primo. Io rinfodero lo stocco e dico: sì, è vero, non siamo servi del conte. 20 più 4, 24. Beh, si guardano. Guardate la mia faccia, me l'ha fatto il conte questo. E poi dopo tocca a Giulio. Viva il conte! E Giulio, e poi, no, mentre io faccio così, guardate la mia faccia. Lui, sì. Viva il conte! E Giulio, ottima strategia, se la continua. Non siamo salvi il conte. Siamo amici. Forse uccidendo i nemici del conte potrà tornare normale. Come? Allora, vi guardano con sospetto, indecisi se si tratta. Però io sono disarmato adesso. Sì. Dell'ennesimo trucco. Il mio stocco è infilato nella tizia. Appunto. Non è vero, no, l'ho estratto. Ecco dove l'avevo perso. Soccorrono la prima, che appunto perde molto sangue dalla ferita che gli hai fatto. Non è ammazzata. No, il secondo attacco per evitare il doppio. Non era morta ancora. No, non era morta. Forse quattro di due o un altro. Che stavi ma vedi, io sono colpire col pisca. E che sono lì a grattarmi le palle. No, un danno. E spero che una forma animale per sticcissimo. Cercano di medicarla. In realtà è una parola grossa perché sono coperti di fango, quindi. Vabbè, li aiutiamo noi a medicarla. Sì, li aiutiamo noi a medicarla, le piante lo non c'è più niente da fare, ragazzi. Lei Lens. Se non è una strega, dal lago riuscirà a vivere. 5 punti ferita sono più che sufficienti, no? Sì. Anche uno. Due. Che picchio di merda. Va bene, 5 dai. L'attacco. Hai appena assediato l'attacco. Allora, tu imponi le mani. Sì. E infliggi ferite. Perché? No, non è morto. No, non è un morto. Beh, io lui. Tu sì. Mani, non faccio, non è che gli la bacio, gli metto le mani. Con la mummia. Tu la tocchi con le tue mani e di solito appunto ti aspetti che quando le imponi cioè la luce sente le trombe del cielo che suonano. Ah, sì. E sì. Questa volta ti sembra un po' diverso. Non è la ferita effettivamente un po' si rimargina. Ah, sì. Però la pelle intorno sì, cicatrizza ma in maniera molto molto vistosa. Un pochino come se anche quella invecchiasse un po', e questo allerta gli altri due perché dicono: oh mio Dio, che cazzo sta facendo? E vedi che vanno per riprendere in mano le loro asce. Non ho capito, non l'hai curata? No, l'ho curata, però la pelle intorno alla ferita raggrinzisce come la sua faccia. No, non prendete le armi, è guarita, solo i miei poteri non sono più quelli di un tempo. Questo luogo oscuro, forse il cacciatore potrà liberarci tutti. La cosa più divertente sarebbe se adesso lui invece fosse tornato un po' normale. No, peccato. Uno dei due appunto tipo si frappone tra lei e te, ti ringhia qualcosa addosso, poi la prende di peso e la porta via nella foresta. E l'altro? L'altro vi... cioè, di fatto gli guarda le spalle mentre fa questa cosa, poi quando si è allontanato allora... Aspettate! Avete il cacciatore! Conoscete il cacciatore? spara, non Giulio. Sembra capiscano quello che chiedi. Spara, Giulio. Conosceranno altri cacciatori. Io rigando devo andare verso, però. Cosa va? Ma vabbè, che cioè che cos'erano? Lo possiamo desumere? Erano lo dice anche Irina, dei berserk che abitano nelle montagne. E sono contro il conte? Sono degli uomini selvaggi che abitano le montagne, è chiaro, schifano qualsiasi popolazione sia lontanamente civilizzata. Quindi se vuoi, solo per il fatto di avere vestiti addosso, siete dei potenziali nemici perché usurpate la loro terra. Beh, però poi sono fermati, tutto sommato. Li avete convinti delle vostre buone intenzioni e del fatto di non essere amici del conte. Quindi non potete fare in posizione delle mani. Posso farlo, però è vecchio la gente. Che merda. Riprendete il cammino e... Non è che se lo faccio anche su di me, immagino, di invecchiare. Peggio di così. Rivedete l'ultimo dei tre che avete visto. Adesso me lo fai mai apposta. Rivediamo l'ultimo dei tre che vedete che sta correndo per raggiungervi. Mi sparo. Rivolgendosi a Vardistan, gli dice: ti ringrazio, cioè, grazie anziano signore. Solo in faccia. Cerca la torre solitaria nella foresta. Ha avuto dei grandi problemi. Sì. E se ne va. Per il cacciatore. Abbia fatto un incidente. La torre solitaria nella foresta. Irina, conosci questo luogo? Non mi dice niente, però. Staci attentamente. Però magari in città possono darci delle indicazioni. E allora andremo in città, Irina, porca troia. Va bene. Con questo saliamo di livello. Concludiamo. Sì, io ho preso. No, io ho preso il bonus alle statistiche. Merda. Radire un compagno. Alla prossima avventura. Con. Legato a maestro sessuale. Sì. Con la mummia. Sì. Vabbè, problema, sì, avete visto il quarto atto della maledizione di Katta? Così ha detto. E siamo diventati sempre più maledetti. Da adulto? Ah no. Come non abbiamo stato. Come era previsto. E vediamo appuntamente i prossimi episodi con Tycoons and Dragons qui anche per il 2019. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao! Buonanotte! Questa gente chiede un'altra scusa. Dice che vedi a te scusa un periodo di pressione. Però no, credo che il suo problema sia anche. Buttano le cicche per terra, Contestrano! Però se anche questa roba. Mi racconti una paura della buonanotte, Contestrano! Racconte del conto. Però qua è venuto fuori adesso.